Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, come cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dal signor Garruba, dal signor Barisoni, financo, anzi, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, come mai non chiama gente che cita Mein Kampf? Non chiama, io mi chiedo come mai solo. Sai cosa penso, Parenzo, su questa vicenda ancora di Roma, che ovviamente è ancora nella testa di tutti, questa enorme corruzione, questo spreco di denaro pubblico, che questo è la cosa fondamentale, no? Sai cosa penso? Che si dicono anche troppe parole. Per esempio, il Presidente del Consiglio qualche istante fa, Renzi, ha detto sulla corruzione i corrotti pagheranno tutto. Poi nei giorni scorsi aveva detto noi no, non lasceremo che i ladri si prendano Roma, eccetera. Però certo, poi bisogna fare qualcosa di concreto, cioè al di là del commissariamento del partito, che è un atto politico, cioè che cosa si fa di concreto per ripulire tutto, per fare tabula rasa? L'ha fatto, no, sta facendo. Che ha fatto? Secondo me. Ma cosa ha fatto? Ah, abbiamo capito, tu sei filo governativo, filo Renzi, allora sta facendo tutto bene. No, sta facendo Tutto bene, ho capito. Intanto dice che il selfie, questo l'ha detto ieri, che il selfie non è una tangente, ma su questo siamo d'accordo tutti. Ma bisogna fare qualcosa di più, c'è bisogno di un segnale di più, non è il commissariamento del partito, perché non la gente del commissariamento del PD non frega nulla, niente, nulla. Farsi un selfie non è prendere una tangente. Prendere una tangente è la cosa peggiore che un politico possa fare, e con noi quelli hanno chiuso. Con noi quelli hanno chiuso, prendere una tangente è il peggio che si possa fare, un film già visto. Poi di concreto a Roma cosa accade? C'è una giunta di salute pubblica, c'è un'ipotesi di commissariamento. Per esempio Alfano sembra cavalcare questa cosa, il signor Alfano, per il momento, e lascia un po' di incertezza. Il Consiglio dei Ministri deciderà, mentre il Partito Democratico esclude, diciamo, lo scioglimento del Consiglio Comunale, mettiamola così. In realtà il signor Alfano, da questo giudizio tecnico poi deve nascere la valutazione se proporre al Consiglio dei Ministri, questa è una decisione del Consiglio dei Ministri, di sciogliere un ente locale, per di più Roma Capitale o meno. Alemanno, non mi spiego, questo è incredibile, non mi spiego come persone vicine a me conoscessero Carminati. Amico mio Alemanno, ma quelli che tu hai messo sono stati estremisti di destra, cioè anche in posti apicali importanti, il signor Mancini, il tuo ex portavoce, là, capo ufficio stampa, capo dello staff, uno che è stato portavoce di Forza Nuova. Che ti aspetti, che non conoscessero Carminati a Roma? Carminati è stato un boss assoluto a Roma, negli anni 70, negli anni 80, poi è stato in galera, poi è tornato a Roma. Tutti sapevano che ancora aveva un ruolo fondamentale. E tu, che sei il sindaco, non sai che i tuoi hanno contatti con Carminati? Ma questa è una responsabilità politica molto grave. Non mi spiego il fatto che delle persone a me vicino potessero avere dei rapporti con Carminati. Tuttora mi sembra incredibile. Quando il nome di Carminati è cominciato a circolare sulle inchieste dell'Espresso, io ho chiamato tutte le persone a me vicine e gli ho chiesto se avessero dei rapporti con Carminati, e tutti mi hanno decisamente negato. La cosa più incredibile che noto, al di là dei turbamenti e dei problemi del Partito Democratico di cui abbiamo parlato, no? è il fatto che il centrodestra, diciamo la verità, il centrodestra è accusato di atti di corruzione praticamente in tutta Italia, no? Dalle regioni alle province, quando c'erano, ai comuni, sì. Cioè, non c'è forse un comune dove non c'è un esponente di centrodestra che non è accusato. Adesso la cosa incredibile è che il centrodestra, cioè in particolare Forza Italia, sto dicendo perché ormai centrodestra non si capisce più niente quello che ci dica il governo, Forza Italia sale sul carro della battaglia contro la giunta Marino, cioè prende la questione della corruzione come una bandiera. È una cosa pazzesca, se ci pensi, cioè come si ribaltano le cose, no? Cioè, siccome è implicata la giunta Marino eccetera, adesso Forza Italia fa della corruzione a Roma, di cui è stato partecipe non solo in questa inchiesta ma anche nella giunta precedente ovviamente di Alemanno, una sua bandiera. Ma ragazzi, ma guardatevi in faccia, io lo dico con serenità, guardatevi in faccia, non potete fare della corruzione la vostra bandiera. Della corruzione Forza Italia, ma dai, ragazzi, è veramente ridicolo. Lo dico anche all'amica Santanchè. Sentite cosa dice di Berlusconi. Cacciate dal Parlamento e dalla politica chi i soldi della politica li ha messi, non come i vostri che rubavano. Un nome per tutti, Silvio Berlusconi. Cioè, sostiene la Santanchè che Berlusconi in politica ci ha messo i soldi, mentre gli altri soldi se li sono presi. Beh, da un punto di vista tecnico sarà anche vero, perché sicuramente ha messo un sacco di soldi suoi, cioè non ha bisogno, diciamo, di rubare la mazzetta, diciamo, Berlusconi Silvio, no? Poi, come sappiamo, è condannato per altri reati, eccetera. Per un reato in particolare, in via definitiva. Santanchè, ancora Santanchè, senti questa cosa che dice: ah, chi ruba in galera e buttare la chiave. Questo è stupendo, beh, è stupendo, stupendo, Santanchè, meraviglioso. È uno schifo, si deve chiudere, si deve cacciare tutti a casa e chi ruba si deve mettere in galera e buttare via la chiave. Vado. C'è pure la musica giusta per sottolineare il fatto che il centrodestra che è pieno di corrotti in tutta Italia, diciamolo, ma lo dico anche con il sorriso, sì. Salta sul carro di chi si vuole combattere la corruzione a Roma. Guarda, è una cosa talmente comica che è fantastica. Cioè, i politici in Italia ci offrono degli spaccati meravigliosi da questo punto di vista. Cioè, il centrodestra, Forza Italia in particolare, lo dico perché ho tanti amici, è pieno di corrotti in tutti, di gente sotto accusa, di gente anche condannata eccetera, che adesso fanno, oddio, a Roma la corruzione, buttare le chiavi, tutti in galera. Pazzesca, dai, pazzesca, è pazzesco. Abbiamo già un ospite, perché in realtà mentre a Roma succede quello che succede, abbiamo una vita fantastica, meravigliosa, fatta di mondanità, fatta di nuove iniziative, anche imprenditoriali, se vogliamo, iniziative cinematografiche, iniziative di Frizzi e Lazio. Di... Beh, no, adesso non esageriamo, c'è sempre uno che lavora in Senato, è sempre meglio quello di piano, sempre meglio quello di piano, questo sempre. Antonio Razzi, buonasera. Buonasera a te e tutti. Come stai, Antonio? Come stai? Ah, come stai? Sting un po' stanco, ma va bene. Ma che su, come sting un po' stanco? Ma sei matto, scusa, che sei tu stanco? Tu non puoi essere stanco per definizione. Non so, forse perché lavoro troppo, dovrei un po' calmarmi un po'. Ma come? Ma dove sei ora? È nel mio DNA, ormai è 50 anni che lavoro sempre. Che devi fare? Ma dove sei? Ma tu devi sapere che Razzi viene, cioè, quest'uomo qui, perché io l'adoro, cioè il trasferimento da Roma a Pescara, per esempio, no? Lui abita a Pescara. In pullman, beh, è stupendo, in pullman, voi potete incontrare, non è che c'ha cose, macchine, auto blu, autiste, cioè, in pullman. Un viaggio allucinante, da Pescara, l'ho fatto anch'io. A Roma, in pullman, in mezzo all'Appennino, no, Antò? Sì, è bello, anche perché così almeno ho la possibilità di vedere, di gustarmi bei panorami abruzzesi e dopo laziale, ci mancherebbe. Sì, per arrivare a Roma ci sono anche belle colline laziali. Beh sì, quello non c'è dubbio, cioè prima l'Abruzzo e poi Lazio, no? Cioè... No, io lo faccio molto volentieri, così mi rilasso. Ma non è stancante l'autobus? Posso parlare con la gente? Sì. Che ti dicono dentro l'autobus la gente? Dice, molte si meravigliano, ma come lei, senatore, la macchina blu, sì, io le tengo nere e tengo al garage. La tengo nera e nera e sta dentro il garage. Mi piace questo dialetto abruzzese piuttosto pronunciato. Allora, però qui dobbiamo dare una grandissima anticipazione, caro Parenzo, perché abbiamo il senatore Razzi che ha fatto un disco. No. Sì. No, un disco, una canzone. Ha composto una canzone, cioè è diventato. Ha cantato una canzone, giusto? Sì, sì, stiamo cercando di portare avanti va avanti fino alla fine. Speriamo. No, come va avanti fino alla fine? Scusami un attimo, c'è la canzone definitiva, ce l'abbiamo praticamente, abbiamo uno stralcio di canzone. Cioè, sì, diciamola tutta. Beh, io devo ringraziare la maestra Paola Palma, Carlo Maietta, che si sta dando cercare di portare a buon fine questo risultato. Ma che risultato è? Scusi, quale risultato? Magari dici di andare ospite a Sanremo. L'obiettivo è ospite a Sanremo. No, diciamolo subito. No, ma diciamolo chiaramente. Allora, l'obiettivo è andare ospite a Sanremo. Sarebbe veramente. Noi siamo tifosi di questa cosa, Parenzo, no? Beh, sì, questo si può fare. Beh, io dico, ragazzi, a Sanremo. Ma dov'è questa canzone? Esiste quello che. Dimmi. Se magari c'è un gettone, io lo do tutto in beneficenza. Io no, ma che gettone? Gettone non ci sarà. Ma gettone. Non lo so, ma io se c'è, lo do in beneficenza. Comunque, l'obiettivo è quello di andare ospite a Sanremo. L'hai chiamato Carlo Conti o no? No, io non lo conosco. Signor Carlo Conti, facciamo noi un appello al signor Carlo Conti se ci sta ascoltando. Adesso, fra poco, dopo il traffico, manderemo uno stralcio di questa canzone meravigliosa, che in realtà è composta soprattutto delle parole, delle tue parole storiche, giusto? Ti posso dire una cosa che molte volte io ci rimango anche un po'. Sono stato lì a cena con lì da Carlo Maietto, che ci stava Robert De Niro. Pure De Niro. Sei stato a cena con De Niro? Siamo usciti fuori, a gente a chiedergli autografo, a De Niro, a me. Cioè, più a te, diciamo la verità, più a te che a De Niro. La meraviglia delle meraviglie è che chiedevano pure a me. No, ma soprattutto più a te che a De Niro, diciamola tutta. Diciamo tutto, no, più a te che a De Niro. Vabbè, io non mi voglio... No, diciamola, chiedevano un po' più basso. Chiedevano più a te o a De Niro? Le fotografie volevano fare, molte lo volevano fare con me, però poi c'era pure De Niro, c'era De Niro, scusa, De Niro mica Antonio Razzi, però in Italia vuol dire, sei più famoso tu di De Niro, dai, diciamola tutta, ma no? Non lo so, questo sono le persone che lo devono dire, io non lo posso dire. Però la gente si faceva più foto con te, o sbaglio? Molte volte sono vicino a dei ministri qui, vicino al Senato, se ne sbattono, sono dei ragazzi e mi chiamano, se no possiamo fare una foto, il ministro manca lo pensa. Allora, traffico dopo un'anteprima della canzone di Razzi, con cui Razzi vuole andare ospite a Sanremo. Come si intitola sta canzone, Antò? Fammi cantare. Fammi cantare. Ma è una napoletana, sembra. No, un po' anche abruzzese. Un po' pure abruzzese, traffico. Tira gamba e fammi sognare. Chiedo solo un rimborso spese per arrivare alla fine del mese. Avete capito? È solo un rimborso spese per arrivare alla fine del mese. Com'è il ritornello, Antò? Sì, appunto, dice, chiedo solo un rimborso spese per arrivare alla fine del mese. E poi altri passaggi quali sono? Fammi cantare, tira a campare, poi? E poi a chi vive di emozione, anche perché ama le canzoni, eccetera, eccetera. Cioè, ma quella è proprio la tua voce, Antò? Sì, perché mica... tu sai cantare, diciamola tutta. Ma sai... Quando. Ma che ti hanno detto? Che hai una bella voce, questi qua che sono degli esperti, quelli con cui hai inciso questa canzone? Dice va benissimo così. Dice perché. Va benissimo così. Senti, allora lo dicono, Sinatra, io mi sento stonato, io mi sento. Però se i maestri dicono bene. Ma hai capito, Parenzo? Cioè, l'obiettivo è quello di andare ospite a Sanremo. Sono allucinato. Ma una frase, ci sono la frase dentro, che ne so, fatti i cazzi tua, dentro... Te lo dico da amico, cioè... anche queste cose qui. Ci sono anche queste cose, ma vedremo perché, come dire, no? L'obiettivo è quello di andare ospite a Sanremo con questo disco che uscirà tra poco, tra qualche settimana, diciamo così, Antonio, no? Sì, prima diamo l'esclusiva alla Zanzara, farlo sentire alla Zanzara. Integrale. Senti, una cosa. Video? Fai anche un video tipo Vasco Rossi? Certo, ci sarà un video, no? O no? Come no, facciamo anche il video, Facciamo pure il video. Allora, però, Antonio, voglio chiederti una cosa, poi torniamo tutto su questa finito. Cosa qua. No, ma mi è venuta in mente una cosa. Tutto finito. La cosa è questa, Mafia Capitale, no? Ti sarà capitato di leggere in questi giorni tra un disco e l'altro sta storia, no? Ma diciamo la verità, i colpevoli di questa storia di Mafia Capitale, no? Cioè i corrotti, quelli delle tangenti, le cose. Ma in Corea cosa gli avrebbero fatto? Diciamola tu, diciamo la verità. Eh? Questo non credo che succedeva, cioè, prima, perché lì c'erano, tagliavano le mani. Non credo che succedeva prima, cioè, tagliavano le mani. Però mi è piaciuta la battuta che ha detto la collega, sì, la Santacchè, no? Che ha detto? E ha detto, dice, mettere in prigione e buttare le chiavi. E dico io, quanta prigione si dava fa? Tante prigioni, tante prigioni. Ma in Corea che succedeva ai corrotti? Ma non arrivano a essere corrotti. Beh, come no? Ci saranno i corrotti, quelli li ammazzano direttamente. No, assolutamente. No, c'è molta serietà. Molta e serietà, non fanno, certo, queste ruberie. Ah, le ruberie non ci detto, sono. Ma sì, purtroppo la cosa è qui in Italia. Non passa questo messaggio, non passa. No, dice, se non cacci la mazzetta non vai avanti. E capito? Invece in Corea le mazzette non ci sono. Non ci sono. Qui la burocrazia, credo, purtroppo noi dobbiamo... Cioè, diciamo la verità, questa burocrazia non c'è dubbio, è tremenda. Ma in realtà Renzi dovrebbe prendere il modello della Corea per quello che riguarda le mazzette, o no? è una domanda, Anto, tu o no? No, io... Questo non credo che lui prenderà. No, ma se è un paese dove le mazzette non ci sono, bisogna prendere esempio da lì, o no? Quello sì, bisogna prendere esempio lì, almeno riguardo sulle mazzette, diciamo. Diciamo che se rubi ci sono un po' di problemi dal punto di vista, come dire, ti tagliano le mani. No, se rubi c'è un po' di punto di vista commerciale, più che altro, non commerci più. Ma in che senso? In che senso? Scusa, non commerci. No, non farai più commercio. Cioè, no, sì. Ti leverà il negozio, ti leverà. Ti ammazzano proprio. No, ma come no? Ti danno in pasto i cani, dai. Vedi se senti qualche cosa che succede lì. No, non succede. Appunto. Te lo dicono. Beh, certo. Tutte gente precise. Per bene, tutta gente per bene. E lavorano e si fanno i cazzi loro. Beh, sì. Finiscono in galera se dissentono. Senti, a te, però ti voglio chiedere una cosa. Come fa Davide? Davide Parenzo, lo conosci? Beh, Davide Parenzo? Sì, più o meno, sì. Quello là si fa pure i cazzi suoi. Si fa molti cazzi suoi. Hai ragione, sì, non è sbagliata come cosa. Il modello coreano poco a che vedere. Non è sbagliata, ti fai molti cazzi tuoi. Stavolta, ragazzi, devo dire che la verità, Antonio, non è sbagliato. Senti, Antonio, però ti voglio chiedere, ma sto film alla fine, intanto rimandiamo un po' sto Fammi Cantare, che è meraviglioso. Beh, con la voce di Razzi. Aspetta, fatemi risentire un attimo la nuova canzone di Razzi. Fammi cantare, tira gamba. Com'è che fa, Anto? Fammi sognare, chiedo solo un rimborso spese per arrivare alla fine del mese. Siamo veramente al top. Ma chi le ha scritte le parole? Scusami, Anto. Questa è stata la maestra, professoressa pure. Paola Palma. Vabbè, adesso non diamo troppi titoli. Ma chi è maestra? Ha vinto anche un Sanremo come autrice di canzoni. Lei è cosa? Voglio chiedere a Mogol una consulenza. C'è sempre l'amico Carlo Maietta che sta lavorando per concludere, perché a primavera bisogna incominciare a girarlo. Ah, beh, il film. Dunque, De Niro, l'incontro com'è stato con De Niro? Questo è importante. Cioè, hai incontrato De Niro? Ma è una cosa pazzesca. Rendiamoci conto, ragazzi, il senatore Razzi ha incontrato De Niro in una casa, è stato a cena con lui, mi hanno detto che ti sei fatto fare le foto. Sì, molto... Molto, che? Ma molto molto bello, molto simpatico, uno alla mano, guarda, veramente io sono rimasto impressionato che una persona proprio per bene. Ma molto... gli hai detto, per bene, certo, mica un bandito, ma De Niro, scusa, ma non è che è Roma capitale, cioè non è questi qua. Ma gli hai detto, gli hai fatto ripetere in americano, te lo dico da amico, fatti ragazzi tu. Gliel'hai date le magliette? Come? Gliel'ho date una maglietta. E lui che ha fatto? Gli ho spiegato e gliel'ho firmato. Ci mancherebbe. Hai firmato pure una maglietta a De Niro, cosa incredibile. Senti una cosa, ma sto film alla fine esce o non esce? Niro, sì, poi. Esce. Sì. Adesso. Ma con chi è? Poi? È tutto in mano a Carlo Maietta. Vabbè, abbiamo capito, è tutto in mano a Carlo Maietta, che è un produttore importante. Ma ci sarà Banfi o no? C'è Banfi o no alla fine? Questo lo decide Carlo Maietta, è lui che sta guardando tutto il titolo del film. Qual è? Non lo so, questo lo dovresti chiedere all'amico Carlo. Ma sa tutto lui, sa. Comunque sì, vabbè, è quello che facciamo, decide tutto. Carlo, io ancora ma tu che parte farai, scusa Antonio, che parte farai? Beh, io penso che farò una piccola parte come ha fatto Andreotti con Alberto Sordi, cioè? Una piccola, non posso fare io tutto intero il personaggio, cioè reale. Un cameo farai, un piccolo anche perché non me lo permette il lavoro. Certo, non c'è dubbio. Io posso mancare un fine settimana a girare e poi rientro al Senato a fare il mio dovere. Fai una settimana a girare il film, dici? Posso andare dal fine settimana, capito? 2-3 giorni. Sì, certo. Senti, ma come hai per le mani? Come cantante? No, aspetta un attimo, come cantante, no? Come cantante, a chi assomigli secondo te? Chi puoi assomigliare? Lì c'è stato l'imitazione di Crozza come Freddie Mercury. Tu in chi ti sei immedesimato? Chi è che ti piace di più? Io mi sono medesimato ad Antonio Ranzi. No, d'accordo, vabbè, questo d'accordo. Però a chi fai? È una voce unica. Io com'è non che... posso. No, ma chi è che fai? Come dire, a chi è che hai pensato quando hai cominciato a cantare? Ma a suo tempo io cantavo le canzoni di Adriano Celentano, di Gianni Morandi. Per cui sei un po' il modugno dei politici, no? Sei un po' il motivo. Battisti, che ma portato a fare la voce di Lucio Battisti e cantare le canzoni di Lucio Battisti è molto, molto difficile. Ma tu ti senti un po' il modugno dei politici, no? Il modugno, no? Ma beh, sì. Sì. Ti ricordi la lontananza di Modugno, no? Quando viene, quando lo canta e quando anche parlato, capito? Ma com'è che fa la cosa? Com'è che fa il ritornello là? Quale? Fammi cantare, tira a campana. Com'è? Fammi cantare e tira a campana. Insomma, e poi fammi sognare, eccetera, eccetera, eccetera. Caro amico, la nuova canzone di Antonio Razzi che vuole andare a Sanremo, non come concorrente, perché sennò non si potrebbe, chiaramente, perché la canzone sarebbe già bruciata, ma come ospite. Chissà, noi sponsorizziamo questa cosa. Carlo Conti, fatti vivo. Ciao, fatti ciao Antonio. Dire. Ciao, ciao, ciao. A proposito, che tu, succede? Giuseppe, scusa, se non mi chiamate prima di Natale, dimmi, posso augurare a tutti i radioascoltatori buon Natale, vabbè, andare un buon Natale e un buon anno. Ti chiameremo prima, che stai scherzando? Ciao, ciao. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ve lo dico a voi due d'amico. Fatevi i cazzi vostri. Come fa Davide? Davide Parenzo, lo conosci Davide Parenzo? Quello là si fa pure i cazzi suoi. Non... Allora, innanzitutto la Zanzara è diventato un programma dove si prendono dal conduttore, il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? E in tutti i sensi. E lo faccio da Parezzo. Amici miei! Siamo al top, eh? Allora Renzi promette nuove misure in Consiglio dei Ministri, pene più dure, prescrizione più lunga, vedremo. Intanto ieri, caro Parenzo, durante Piazza Pulita scontro pazzesco proprio su queste cose tra Orfini e Marino. Esatto, sì. E Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, con il presidente del Partito Democratico Orfini, che si è messo a battibeccare in televisione con il direttore del Fatto Quotidiano, perché è una persona stimabilissima, però non è che il presidente del Partito Democratico debba rendere conto. No, nonché commissario a Roma, eh? Sì, commissario a Roma, certamente, però presidente anche del Partito Democratico, cioè in teoria la seconda carica del partito, no? Vabbè, il segretario. Certo. No, però voglio dire, battaglia, non è che scende nell'arena. Sì, ma non è che tu ti metti a battibeccare su cosa ha fatto il governo per la corruzione. Nello stesso tempo non è che tutti si debbano adeguare a quello che vuole il Fatto Quotidiano in tema di corruzione. Comunque, vabbè, al di là di questo, il tema qual era? Secondo Gomez, il Partito Democratico, questo governo ha fatto pochissimo per combattere la corruzione, non ha cambiato le leggi, spesso è stato connivente con Forza Italia, c'è la questione dell'uso delle intercettazioni negate ai magistrati nella vicenda Azzolino, una vicenda molto complicata, un senatore di Nuovo Centrodestra, la legge anticorruzione che fino adesso non è andata in porto, o comunque non è andata in porto come vorrebbero alcuni, in particolare il Fatto Quotidiano, un gruppo di magistrati, eccetera eccetera. Adesso Renzi annuncia nuove misure, evidentemente quelle di prima non erano ritenute sufficienti. Bah, un guad- guazzabuglio pazzesco. Intanto godetevi lo spettacolo di questo scontro tra il direttore di un giornale, Peter Gomez, e il presidente del Partito Democratico. Giudica allora, sì, dimmi la verità e spiega le regole in base a cui si vota il Senato. Richiesta e non fare di utilizzo di intercettazioni nei confronti di Azzolini, NCD, membro della maggioranza. Casson dice si possono utilizzare tutto regolare. Il PD vota contro, le intercettazioni non verranno utilizzate. Il signore probabilmente, nonostante che a Molfetta abbiano buttato via 150 milioni di euro, truffa ai danni dello Stato. Intercettazioni che sono state fatte i senatori. Facciamo una cosa. Lei è un piccolo arrogante. Cosa succede? Avete fatto una campagna di mesi sull'autoriciclaggio, dimmi se esatto, sbaglio. Avete approvato schifezza. No. Ah, certo, avete detto che non avremmo mai approvato una legge sull'autoriciclaggio. Allora vi spiego cosa hanno approvato. In Italia, se io riciclo i soldi di Formigli, così in seguito schifo a questa legge, così fa schifo. Se io riciclo i soldi di Formigli, vengo punito più gravemente di quanto non avvenga se riciclo i soldi miei. Ma le pare logico? Le pare logico, questo dice la legge. Sì. Ti posso dire una cosa, ma in fin dei conti uno che è il presidente di un partito, che è il commissario a Roma, potrebbe anche fottersene, in teoria, potrebbe anche fottersene di quello che scrive un quotidiano, ma che te ne frega? Se sei sicuro, se sei sicuro che il tuo partito ha fatto il massimo in tema di corruzione e non può fare nient'altro, ma fottitene, dico, vabbè, quella è la sua opinione. No, io trovo legittimo che il fatto faccia delle campagne stampa. Ma ancora non c'è dubbio, sono il primo a dirlo, ma stai scherzando. Ma, appunto. Ma io credo che però il presidente... Però se lui è lì... Perché sì, non deve difendersi e spiegare? Ma sì, ma c'è troppa foga, troppa, se è vero o no, troppa foga, sta lì. Perché troppa foga? Se dici che non combattono, uno deve stare lì a prendere mazzate sulla testa. Ma che mazzate, mazzate. Vabbè. Ma poi, tra l'altro, anche Marchini, che ormai è praticamente in televisione perché si candiderà quando sarà sindaco di Roma, vuole fare il sindaco di Roma, si è già candidato a sindaco di Roma, ovviamente ha perso, adesso è sentito come quello che potrebbe risolvere i problemi di Roma, no? Indipendente dalla politica, imprenditore, eccetera, eccetera. Contro Orfini pure lui. Finché è finita. Hai fatto delle primarie, caro Orfini, che sono state delle primarie. No, certo, non ho partecipato a quelle primarie perché le perdevi. Posso parlare? Quelli lì non dicevano se vince Marino. Dicevano se vince Codazzi, dicevano se vince Marino. Siamo ha ragione, c'è arrogante. Io non ho partecipato a quelle primarie e sono orgoglioso, perché quando leggo nelle intercettazioni che c'erano i rom portati dalle cooperative che è stata una conta interna, sono orgoglioso. Allora, ormai trasmissioni televisive dentro i campi rom. Dentro i campi ormai rom. È un format del campo rom. Allora, ieri a Quinta Colonna, se non sbaglio, a un certo punto c'è i rom, tra l'altro si è scoperto in questa vicenda in maniera incredibile, sono passati anche qui da un giorno all'altro dall'essere considerati delle merde, dall'essere considerati quelli che distruggono le periferie, che fanno vivere male la gente nelle periferie, a vittime delle ruberie. Infatti hanno rubato più, come voglio dire, dico da un po' purtroppo, solo. Mi fai dire che è una cazzata questa cosa qua. Rubano molto di più i politici dei rom. Ma in proporzione, certo, non c'è dubbio, che vuol dire? Secondo quale calcolo? Ma che vuol dire? Forte chiaro. Allora, dire. Allora rubano di più i narcotrafficanti dei politici italiani. Ma che significato ha? Parliamo di quello che sta avvenendo qui. Allora, i rom, già i campi rom. Quanto costava un pasto caldo da caldo? Ma non dovrebbero esistere i campi rom, questo è il punto. O uno è rom, è nomade, oppure si cerca una casa. I campi rom attrezzati sono solo fonte di ruberie, come si è visto. Loro, anche loro non li volevano i campi rom. No, e che vogliono allora? I rom stessi. Che vogliono? Volevano casa. E se la cerchino, come tutti gli italiani, con gli annunci, con i concorsi pubblici nelle case popolari, se la cerchino come tutti gli altri. i rom, noi rubiamo portafogli, non i miliardi, perché questo è quello che passa, questa cosa ridicola, noi rubiamo portafogli, vero, non i miliardi, ma vero, sì, sarà anche vero, ma non c'entra nulla. No, no, ma fammi dire di più, perché i rom sono gli unici ladri, gli unici alcuni, che lo dicono, che... l'hai già detto, che lo dicono, ma è fondamentale che ammettono, e mentre sì, questi qui, questa cosa qua, beccati con le mani nella marmellata, dicono no, noi non rubiamo, rinnovati, almeno, rinnovati. Ma no, guarda le inchieste, queste inchieste qui, sembrano tutti santi. Senti, sembrano. Rom, sì, questo è vero, rom. E i rom invece, no, non ruba, certo che ruba, mangiare. Quello spagnolo che dice rubano zingheri, è vero che noi rubiamo un portafoglio e rubiamo per un pezzo di pane che sì, manteniamo i nostri figli, sì, certo, e nostra famiglia. Allora, ancora. Se noi non è che rubiamo miliardi, miliardi di non miliardi, importa signora. Mi fai dire che è veramente patente. Noi rubiamo portafogli. Ma un cazzo, sì, rubate i portafogli, ma... Ruba orologio, portafoglio, ma... catenina, non 25.000 euro al mese. Ma quello 25.000 euro al mese è quello della sinistra, Buzzi, beh, il appunto, paladino delle COP. De ma sinistra, non è sinistra, è un ladro. Beh, de se sinistra, è vero, è un ladro, non è sinistra destra le COP, per me. Che cos'è la Lega delle Cooperative? Adesso ci scordiamo di cos'è la Lega delle Cooperative. Non ruba per mangiare su metropolitana, mangiare. Ma qua un caio, mi incazzo come una bestia se quello. Cioè, di quello mi accorgo subito. Dei 25.000 euro di Buzzi che si faceva stipendiare a 25.000 euro, ecco, che faceva, capito, la carità. Sulle spalle di questi. Ma ho capito, ma di quello sono cazzi loro. A me se mi fregano il portafoglio, il portafogli. Beh, cazzi loro, oddio, sono anche soldi pubblici, appunto, indirettamente. Appunto, appunto. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. L'annuncio di possibili presidenziali anticipate in Grecia fa crollare i mercati. Tsipras in testa nei sondaggi, Padoan all'Italia, non servono altre manovre. Il ministro Alfano al prefetto Pecoraro a avviare un'indagine sugli atti del Campidoglio, ma non ci sarà lo scioglimento. Orfini, rimpasto, decide Marino. Il governatore del Lazio, Zingaretti, in regione, nessuna gara vinta dalla cupola, comunque stop ad un appalto milionario, la banda puntava ai locali del centro. Renzi, i corrotti pagheranno fino all'ultimo centesimo, allungheremo la prescrizione per questi reati e la pena minima a 6 anni, più facili le confische dei beni. Trasferita in carcere la mamma del piccolo Loris dopo 5 ore davanti ai pubblici ministeri, fermata per omicidio aggravato, ma continua a dirsi innocente. Torture brutali e inutili, l'accusa del Senato americano sulle attività antiterrorismo della CIA volute da Bush, ma i repubblicani le difendono ancora. Muore per un infarto durante la veglia funebre il fratello di Mango, poche ore prima la tragedia dell'artista, anche lui colpito da malore mentre cantava sul palco. Questo rom che è straordinario nella sua follia, no? Davanti alle telecamere uno ammette io rubo, sono un ladro, ma un certo, signore rom dice io rubo portafogli, cioè ma ti pare una roba normale a te? Dai, su, certo, rispetto adesso a questi furti pazzeschi, rispetto a queste ruberie non sembra nulla, e ovviamente di questi qualcuno ha messo qualcosa, no? Ovviamente. Fammi sentire sto rom. Quella signora che dice rubano zingheri, è vero che noi rubiamo un portafoglio e rubiamo per un pezzo di pane che sì, manteniamo i nostri figli, sì, e nostra famiglia. Ancora. Se noi non è che rubiamo miliardi, miliardi di non miliardi, importa signora. Ah, tra l'altro è una donna questa qua, per chi non l'avesse capito, eh? È una donna, la signora Rom. Fantastico, del dire Rom. Non importa signora, non importa. Una cosa pazzesca. Simone, provincia di Firenze, vai. Sì, ciao. Dimmi, dimmi Simone. No, io volevo fare un intervento su un'intervista che hai rilasciato a La Boschi un giorno riguardo all'assunzione del figlio di De Vita. Di De Rita, sì. Figlio De Rita, di De Rita, sì. Non De Vita, De Rita, De Rita. De Rita. Sì, sì, vabbè, ieri, ieri da noi De Rita ha ribadito tutto dicendo che il figlio non lo lascerà, dicendo che il brand De Rita è più importante del resto, la continuità, eccetera, eccetera. No, dicevo, comunque lei ha dato un giudizio, nel senso che in Italia sembra che si vada avanti solo per conoscenze. Ma sì, forse lei è, lei è la prima però. Ecco, infatti, cioè, vorrei ricordare che, cioè, da che pulpito viene la predica, nel senso proprio, mi sembra proprio nella condizione di esprimere un giudizio di questo tipo, una come lei, ecco. Infatti, secondo me De Rita avrebbe dovuto rispondere in questo modo. Secondo me hanno torto tutti e due, in primis De Rita, ovviamente per una questione di opportunità, non per la legge, non è che gli prescrive di non assumere il figlio. Però ecco, la Boschi non è proprio il classico esempio di quella che ha fatto carriera in politica senza una conoscenza, senza un padrino, diciamo. Anche lì c'è un padrinaggio politico, che è quello di Renzi, mentre lì c'è un padrinaggio diretto, che è il padre, figlio. Qui c'è un padrinaggio indiretto, che è ministro Boschi, che diventa ministro in quanto molto vicina al signor Renzi. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore. Incredibili, secondo me, spiegazioni di Giuseppe De Rita, presidente del Censis, ieri qui alla Zanzara, sull'assunzione come direttore generale del figlio Giorgio De Rita. Per Parenzo tutto normale, perché non si tratta di un'azienda pubblica, esatto, ma un'azienda che riceve, che ha dei contratti con il pubblico. Non c'entra nulla. Per me è una questione semplicemente di decenza. Una questione di quando tu fai dei rapporti in cui dici che i giovani sono umiliati. Ma cosa c'entra? Che... quello è il suo lavoro. Stai tranquillo, sto riassumendo. Quando tu fai dei rapporti in cui dici che i giovani sono non riconosciuti nel merito, poi devi dare anche dei segnali, e tuo figlio, se è bravo, lo fai lavorare da un'altra parte, o comunque lo faciliti, se vuoi, a lavorare, tutto legittimo, in un'altra azienda. Se lo fai direttore generale della tua azienda, dai un segnale della solita Italia nepotistica, del tengo famiglia, eccetera eccetera eccetera. Questo secondo me, ovviamente, chiaro. De Rita dice anche che il nome De Rita è un brand. Lei dice che conta soprattutto il brand De Rita? Conta anche il brand De Rita, perché no? Ci sono 50 anni di De Rita insieme alla parola Censis, e non si può pretendere di mantenerlo. È una strategia imprenditoriale, non mi sembra che sia così scandalosa. Io, allora, potrei dirle che io ho 8 figli, di questi 8 figli 3 sono senza lavoro, eppure sono bravi. Mi lamento di questo? No, c'è una realtà di fatto di cui tutti si possono lamentare, della precarietà dei giovani, e c'è una volontà di un'azienda privata di fare una scelta diversa all'interno della famiglia. No. La cosa più incredibile, un'altra, a parte il paragone con De Benedetti, che ovviamente non fa i concorsi, ma non è la stessa cosa, e non sceglie sulla base di curriculum, ma in base al fatto che sono i figli che possono ereditare l'azienda. La cosa incredibile è che poi dice, qui scivola, e qui la scivolata, che lui ha 3 figli precari, dice lui, precari, 3 su 8, ne ha 8, 3 precari. Ed è difficile chiamarsi De Rita, dice. I suoi 3 figli, quelli che lei dice precari, no? Non è che sono discriminati nel mercato del lavoro perché si chiamano De Rita? In parte anche, se vuole. Non è mica facile chiamarsi De Rita. Chiamarsi De Rita è difficile. Quando mi raccontano, se vedono qualcuno, dice ma lei è De Rita, De Rita? E poi dicono sì, cambia un po' il tono, e non in modo amicale, con successo. Certo. Andiamo a Gianluca, Roma. Gianluca. Pronto? Vai, dimmi. Sì. Io volevo dire sulla faccenda di Roma che è una vergogna assoluta, perché se questi soldi li avessero dati alle imprese che sono asfissiate, non saremmo in questa condizione, o comunque la situazione sarebbe diversa. Vorrei, se mi consentite, li hanno dati alle imprese anche. Darvi 3 cifre. Se questi 52 milioni di euro avessero elargiti a 520 imprese, avrebbero potuto dare 100.000 euro a impresa, o 10.000 euro a 5.200 imprese, o 1.000 euro a 52.000 imprese. Fatemi 2 conti e ditemi, io sono basito. Basito sul fatto che tutti i soldi che abbiamo dato a Roma, 4 miliardi negli ultimi anni, si potevano utilizzare in un altro modo, dici tu, no? Si potevano utilizzare nel modo che richiede questo specifico momento, cioè sarebbero dovuti essere immessi nell'economia reale, cosa che nessun governo finora sta facendo, Renzi incluso. Io ho una piccola impresa di famiglia e non, cioè siamo passati, gli affitti, le bollette, siamo arrivati a dei livelli esplosivi. Cioè qui se ti registri la partita IVA all'Agenzia delle Entrate, ti senti il dito puntato addosso perché sei quasi da punire. Sì, ma questa è una vecchia storia. La cosa fondamentale è che poi è molto facile spillare soldi, facile insomma, bisogna anche essere dei criminali. Comunque c'è gente che sui soldi pubblici, sui profughi, sugli immigrati, sui rom, sugli ex carcerati ha creato una specie di impero, ed è l'impero della carità, si può dire, l'impero della carità di quelli che approfittano di queste cose che esistono ma che vengono gonfiate e non si vogliono mai risolvere, perché questa è la realtà. Mi domando la rendicontazione di questi conti. Cioè nessun comitato, nessun organo di controllo. Quale rendicontazione? Questo pagava tutti, questo Buzzi pagava tutti, destra, sinistra, funzionari, burocrati, chiunque si potesse pagare. Quando è intervenuta la nuova giunta, Carminati ha detto vai a fare la puttana da quelli di Alemanno, questo è, vai a battere da quelli di Alemanno. La valderia con cui questi parlano la dice lunga sulla sensazione. Ma non ci sono controlli, quelli non ci possono essere controlli quando sono tutti coinvolti, è impossibile che ci siano i controlli, oppure quando uno deve fare politica e fa finta di non vedere, è impossibile. Luciana da Roma, dai. E poi un'ultima cosa, consentitemela. Io stiamo parlando della capitale, cioè che è al centro del mirino di ogni genere di situazione. Dio solo sa, io non oso immaginare, non voglio fare il processo di attenzione, cosa succede in tutto il resto delle province italiane. C'è il legittimo dubbio che la situazione non solo sia così, ma peggiore. Chi me lo dice? Io non capisco chi è deputato a vigilare, a controllare. Va bene, grazie. Massimo, sempre Roma. Buonasera, Luciana. No, chi c'è? Luciana. Sì, senti, io sentivo Raggi prima e mi sono incazzata da morire a pensare che questo tutti i mesi si prende i soldi nostri e troppi se ne prenderà anche. E poi si mette a fare le canzonette, dici tu, no? Sì, ma a parte le canzonette, ma questo ci prende per i fondelli, questo è un furbetto, è ignorante ma è furbetto. Però io ti voglio dire una cosa, ma tu ti scandalizzi di quello che è successo a Roma? Ma qui ci abbiamo avuto 20 anni di berlusconismo, dove è successo di tutto, e tanti nani e ballerini, l'hai invitati pure tu. E tu ma io sì, perché mi diverto come un pazzo, a me che mi frega. Capito, ma mi frega a me perché quello è già l'Italia. Ci ha portato e che devi fare? Che è il problema mio che l'invito io, non ho capito. Ce l'avevamo la mafia, ce l'avevamo dentro casa dei Berlusconi, ma non te lo puoi scordare questo. Vabbè, la mafia, avevamo uno che era mafioso, non è che c'avevamo la mafia. Ma uno che era mafioso, ma lì era tutto un sistema. Ma tu ti sei scordato quanti voti ha preso in Sicilia Berlusconi il primo anno? Vabbè, adesso siamo passati da mafia capitale a Berlusconi mafioso. Berlusconi mafioso, è lì che nasce. Vabbè, allora che vuoi dire? Che la colpa è pure mia? Che la berlusconismo, questo lo devi mettere in testa, lui che lo difende, tu l'hai sempre difeso. Ma cosa ti ho difeso? Ma che cazzo sempre me ne frega a me? Ti senti delle trasmissioni, io ti ascolto sempre. Ma che difeso? Ma di che parli? Dalle accuse che da accuse che secondo me sono assurde, sì, ho sempre attaccato Berlusconi per le non decisioni in politica. Luciana. Ma le non decisioni? Ma era evidente come funzionavano le cose. Vabbè, adesso sai tutto. Una volta il problema non è più Berlusconi, però, E questi sono i risultati adesso, quindi non ci meravigliamo. Noi cittadini queste cose le sapevamo, le sappiamo da tanti anni. Grazie. Io Massimo, Roma, Massimo, capito. Massimo. Pronto, ciao. Sì, sono dimmi. Massimo da Roma. Allora, senti, io sono sconvolto non dal fatto che è accaduto, ma dalla pochezza degli elementi. Cioè, di mezze calzette che si comprano la capitale. Ma voi immaginate a Palermo persone del genere che pigliano il controllo di Palermo? Questi sono qua, sono mezze calzette, si sono presi Roma. Beh, mezze calzette lo direi. Mezze calzette, ma rispetto a Totorina, rispetto a Santa Paola. Vabbè, ho capito, sono, d'accordo, però. Sono proprio dei cazzoni, questo nascono, non telefona davanti alla polizia, sta davanti la cosa dell'albero, della pompa di benzina, a cercare gli amici, telefona dappertutto, fa gestire a una segretaria i pagamenti delle mazzette. Sì, ma come vuoi chiamare se non è un cazzone? Da questo punto di vista è vero che c'è un cazzonismo, tu sei della versione Ferrara che dice sono quattro ladri di polli, ladri però diciamo rudimentali, primitivi rispetto alle grandi organizzazioni criminali. In realtà sto Carminati non è proprio così, eh. È vero che faceva delle riunioni una pompa di benzina, su questo non c'è dubbio. Lui non sa di chi deve avere paura, dei referenti siciliani calabresi che gli hanno consentito di gestire Roma, se questo non si è manco sognato di parlare, perché se tutti gli interessi che gli ha rovinato con questo, con questi comportamenti da bulletto di periferia, da romano qua, ma chi dici? Chi? Carminati gli amici suoi, sì. Loro sono chiaramente, gli hanno permesso di fare queste cose, no? Dalla Sicilia, dalla Calabria, da Napoli, gli hanno dato, tra virgolette, fiducia a gestire. Beh, sembra che fosse Roma. Anche. Sì, e sì. Adesso questi, insomma, se lui dice mezza parola, se forse accenna ai veri interessi che gli stanno dietro a lui, perché chiaramente è un qua qua da qua, ma lo fanno nero. Non è proprio questo... un qua qua qua, uno che sta sulla breccia a quel livello lì di criminalità, di conoscenze dalla metà degli anni 70, le assicuro che almeno lui, gli altri magari saranno delle comparse, saranno delle marionette, non saranno i grandi criminali come dice lei, come dici tu, ma insomma non è proprio l'ultimo degli arrivati, grandi coperture sembra averle. Francesco, Vicenza, Francesco. Buonasera Cruciani, complimenti dimmi. Per la trasmissione. Vai, dimmi, vai. Ma io vorrei fare una domanda a te Cruciani, non a Parenzo, ma a te. Ma Parenzo è sul libro paga di Buzzi? Beh no, questa è da querela. Ecco però, che arriva eh? La querela. Questa... Grazie, mi ha svoltato il Natale. Sì. No, ma questa è da querela, però, ma che c'entra? Dai, rispondi domanda, tu, Cruciani, perché altrimenti mi incazzo e mi mando a fare il culo. Evidentemente. Vabbè, rispondi tu, adesso l'attacco è a te, no, l'attacco è diretto. Tu, almeno su questo, tu che mi conosci, ma diciamo, no, da questo almeno lo posso escludere, come tante altre cose, al 200%. Almeno caro, questo. Caro, no, almeno, che vuol dire almeno? Che vuol no, dire? Dico almeno questo. No, ma almeno questo che vuol dire almeno questo, come se ti attaccassi su altre cose. Ti sto dicendo, non è al libro paga di Buzzi, Francesco, le posso assicurare che non è così. Ho difeso il fatto, non che Buzzi, che è un criminale fino a quanto abbiamo letto fino ad oggi, ho difeso semplicemente il fatto che una cooperativa che non c'è da buttare via tutto, c'è da buttare via Buzzi e quel che ha fatto, ma ci sono centinaia di cooperative di ex detenuti. Ma questo è scontato però. Eh no, ma io questo pazienza, ho detto in questi giorni. Ma è scontato. Solo questo, non so perché questo idiota da Vicenza, questo Francesco, perché, virgola, Francesco, idiota perché da lei Vicenza, dice che sì, Razzi, che Parenzo è al libro paga di Buzzi? Scusi Francesco, mi dica. Ma perché fanno una propaganda così? Chi fanno? Chi fanno? Parenzo fa una propaganda. Ma non sta facendo nessuna propaganda, ha le sue idee su quello che è successo a Roma, le sta dicendo sulla base di quello che si legge, punto e basta. C'è anche un microfono davanti che non e beh, ho capito, ma questo glielo do io, glielo diamo noi, questa è una nostra scelta, se vuole, se le sta sulle palle questa cosa, cambi canale e non ci rompa le scatole. Però Francesco, scusi, il problema non è chi ha il microfono, chi, è quello che pensa. Parenzo pensa delle cose, le dice, io su alcune cose la penso in maniera completamente diversa, punto e basta, qual è il problema? Infatti, io infatti condivido quello che no dice, ma voglio Cruciani. Capire perché lei arriva a dire che è sul libro paga di Buzzi. È diverso, e si becca la querela. Vabbè, non esagero, adesso voglio portare tutto in tribunale pure, no, le basi, ma è un cagasotto che quereli, che è un cagasotto, ma no, ma non è questo il cagasotto. Se lei dice, se lei accusa me che io faccio un giornalista di essere a libro paga di un criminale, no, lei si becca una bella querela, presunto criminale, si becca una querela e i soldi che guadagnerò li darò a una cooperativa buona che si occupa, speriamo, migliore di quella. Se lei ha voglia di discutere, bene. Se lei non ha voglia di discutere, perché ha la coda di paglia, quello è un problema suo. Va bene, Francesco. Ma non c'è da discutere con uno che fa diffamazione. Camomilla! Ciao. Allora. Francesco da Vicenza. Allora, no, vabbè, basta con queste querele, David. Trucco. No, allora, facciamo un bel coretto, però. Sindaco, trucco. Sindaco di Roma. Dai, David, basta no, con questa cosa. Sto chiamando l'avvocato in diretta. Che guarda. Palle, oh. Sì, no, intanto andiamo avanti. Sempre a fare querele. Ormai ti sei fissato su sta cosa. Denunci tutti ormai. Sei peggio di Taormina. Aspetta. È una cosa pazzesca. Eccolo qua. Aspetta, lo chiamo in diretta. Allora, io vorrei una sola persona sindaco di Roma, ti giuro, non sto scherzando. Chi? Una sola persona sindaco di Roma, ti giuro, una sola persona. Avvocato. Ma no, il vicepresidente della Camera, perché conosce Roma come le sue tasche. E secondo me un po' alla lunga, non adesso, ma alla lunga potrebbe pure essere. Roberto Giachetti con noi, buonasera. Sì, buonasera, ma non scherziamo gentilmente. Ciao Roberto, come stai? Ciao. Bene a voi? Beh, non c'è male, non combattiamo. C'è male. Combattiamo. Senti una cosa, ma adesso, per carità, è uno scherzo il mio ovviamente, no? Assolutamente. Tu sei stato, eri capo di gabinetto, che cos'eri con Rutelli? Sono stato prima capo della segreteria e poi capo di gabinetto. Capo di gabinetto. Ma nei tuoi sogni, no? Nei tuoi sogni, nelle tue idee, ti piacerebbe fare il sindaco? Adesso, sul serio, beh, adesso no, dai. Ti piacerebbe o no? No, ma a me non piace fare le cose per le quali bisogna essere adeguato, e penso che per fare il sindaco di Roma bisogna avere delle grandissime qualità che io non ho, e non penso che ognuno di noi è nelle condizioni di fare qualunque cosa, e forse il fatto che troppo spesso tutti possono fare tutto è quello che non aiuta la politica. Però è vero, Roberto, bisogna dire che i sindaci veramente ne abbiamo visti di tutti i colori, non sto parlando di Roma, adesso ne parleremo ovviamente, però non è che tu adesso tanti anni che fai deputato, sei stato conosci i gangli dell'amministrazione romana, non mi dire che non sei il fatto che altri si sentano nelle condizioni di farlo è un problema loro. Io so che avvocato? Cosa sono stato nel governo di aspetta che aspetta bene, Roberto, scusami, c'è Parenzo in che vuole alla Zanzara, vuole avvocato querelare uno. Sì, ti ho messo in diretta in viva voce. Vuole querelare un ascoltatore, per favore, vuoi dissuaderlo almeno tu? Vuoi avvocato dissuaderlo? Trucco, ti do mandato in diretta di querelare il signor Francesco da Vicenza, che ha detto che sarei al libro paga di Buzzi. Puoi procedere, avvocato? Va bene, questo sicuramente sì, certo. Procederemo perché ovviamente grazie, avvocato Trucco. Essendo il tuo avvocato. Che querela è questa? È bella grossa, no? Ma che querela grossa? È uno che ha detto quanto possiamo il ricavato, vorrei darlo a un campo rom. Quanto possiamo fare con questa roba? Dai, su. Ma c'è il vicepresidente della Camera collegato, va bene che è una persona di spirito, però ragazzi... Sì, vorrei dare il ricavato di questa querela a un campo rom. Ma figuriamoci, dai. Cercheremo di fare il meglio per far sì che i rom abbiano il massimo profitto da questa vicenda. Vabbè. Grazie, perché sono stato accusato di essere a libro paga di Buzzi. Vabbè, procediamo d'accordo. Subito, avvocato, grazie. Avete state riempendo... Sto per sotto la macchina, perché sono in bicicletta. State riempendo i tribunali grazie, avvocato, ciao. Di inutili querele. Allora, io voglio chiedere a Giachetti una cosa... Adesso facciamo un attimo di serietà, sì. Veramente qualche minuto di serietà in questa sì. Cioè interviene un ascoltatore, dice che sei libro paga di... Ecco, ma siccome tutti ignorano chi era Buzzi, almeno Giachetti lo conosceva o no sto Buzzi? Devo dirti la verità, no, io conoscevo la cooperativa anche perché chi di noi per esempio frequenta spesso le carceri perché va a vedere, io ti posso dire per esempio l'attore principale del film dei italiani che si chiama Arcuri ha il mio numero di telefono al quale io l'ho dato quando sono stato a fare visita in carcere, lui stava per uscire perché voleva prendere iniziative a favore di detenuti. Cioè io penso che la causa sia una causa importantissima e il rischio di questa vicenda, sono d'accordo con quello che dice Parenzo, è che poi il valore enorme, perché dal punto di vista della civiltà giuridica anche il fatto che dei detenuti possano riscattarsi rispetto alla società e che ci siano delle organizzazioni qualunque se siano che consentono questo percorso. Allora poi che ci sia un delinquente che fa un'operazione del genere non può gettare fango sul valore del recupero dei detenuti. Sì, quindi ma è vero che i c'è detenuti li conosco. Ma lo so. Tanti ne conosco, ti dico, alcuni hanno il mio numero di telefono e non ho nessun problema, perché il problema è che se mi intercettano, sentano che discuto del fatto di rifare il campetto di calcio a Rebibbia, piuttosto certo non di aver preso una tangente o l'altra. Quindi io Buzzi fisicamente non lo conoscevo, però la cooperativa la conoscevo benissimo e penso che sia. Poi dopodiché mi fanno anche ridere delle cose, dice alla cena della cooperativa ci stavano tutti avanzi di galera, ma quella è una cooperativa. Vabbè, quella cooperativa di ex carcerati, per forza. Chi sì. Deve stare? No, quello è vero. Quello devo dire la verità. Questo non è. Fa ridere il fatto che a una cena organizzata dalla cooperativa 29 giugno, in cui ci sono moltissimi ex carcerati. Ci sono avanzi di galera, non c'è dubbio, quello è vero. E una cena non è la prova di nulla. È vero che quella famosa cena della foto era stata fatta per festeggiare un accordo tra maggioranza e opposizione. E molti dicono che il Partito Democratico durante i 5 anni di Alemanno di opposizione ne abbia fatta poca. Questo è vero secondo te o no? Che non ti occupi più direttamente di cose di Roma? No, appunto, io non mi occupo molto di Roma, ma credo che in passato qualche volta io questa lamentela l'abbia fatto. Cioè che non vedevo. Cioè è vero che durante Alemanno non c'era vera opposizione o no? Diciamo, io ho detto già altre volte a suo tempo che di fronte al varco enorme che lasciava Alemanno con la sua pessima amministrazione, noi spesso e volentieri ci limitavamo a fare qualche manifesto in cui denunciavamo questo o quell'altro. Io penso che l'iniziativa politica sia un'altra cosa, quindi diciamo... Cioè è vero che il PD durante i 5 anni di Alemanno per le nomine, per la questione delle cooperative è stato connivente con Alemanno? Questo io non so. No, connivente a livello penale, no, sto dicendo... Giuseppe, io non ci stavo dentro, non so che nomine venivano fatte, non ne sono accidenti, però io dico dal punto di vista della politica non si è avvertita nei 5 anni di Alemanno una forza di opposizione come quella che per esempio noi abbiamo avuto quando c'era la sindacatura Rutelli, ecco, dove c'avevo buon tempo che faceva gli ostruzionismi mitico sul bilancio, oppure facevano iniziative, cioè meglio l'opposizione di buon tempo di quella del PD con Alemanno, non mi far dire, io no, meglio nel senso più efficace. Io ti dico che quella era un'opposizione dura che viviamo tutti i giorni, questa hai detto, non mi pare che l'opposizione che ha fatto, poi se questo vuol dire che ci sia stato consociativismo o meno, io questo mi pare fuori di dubbio, però da quello che si legge. Però io dico che sicuramente l'azione dell'opposizione posizione ai tempi di Alemanno, non ha sfruttato tutte le praterie che l'amministrazione pessima di Alemanno lasciava. Senti una cosa, non c'è un po' di ipocrisia? Adesso io non mi ricordo bene perché oggi non ho avuto il tempo di cercare le tue frasi su Marino, ma penso che ce ne siano state poche in realtà. Non sei, credo, tra gli almeno pubblicamente un antimariniano. No. Ecco, però adesso il PD è passato da frasi anche aperte da parte di alcuni contro Marino, imbarazzate dall'amministrazione Marino, le gaffe, eccetera, eccetera, vicenda della Panda, è passata, diciamo, alla blindatura di Marino. Adesso questo è francamente una cosa un po' ipocrita. Tu sai che io sono una persona che dice quello che pensa e ti dirò quello che penso. Allora, io penso che in generale, io sai che nasco e mi formo... Cioè il comune va commissariato o no? Questa è la prima domanda. Aspetta, al questo ti dico questo però. Io penso che l'onestà sia un presupposto naturale, una cosa di default, quindi non può essere un elemento qualificante e discriminante tra una cosa e l'altra. Cioè uno deve essere onesto. E io sono sempre stato convinto che Marino sia una persona onesta. Lo ero all'inizio, lo ero durante la vicenda della Panna, lo sono adesso. Cioè che non si è imbertato i soldi in questo senso? Io poi ho sempre detto che, a mio avviso, non solo Marino, ma la giunta e l'azione amministrativa era un'azione che faticava. Sì, e vabbè, rimango convinto che non è che siccome adesso è scoppiata tutta questa cosa dico che l'azione dell'amministrazione era un'azione perfetta e via dicendo. No, io senza fare grandi comunicati, però quando mi sono trovato a dover parlare ho detto sempre che era un'azione debole e questa secondo me può essere l'occasione per cui l'azione deve migliorare. Cioè dovrebbe nominare semplicemente non lo so. A me non interessa, non è un problema. No, dei nomi importanti, che ne so, dovrebbe fare una giunta di salute pubblica, come dice qualcuno, Rutelli stesso l'ha detto. Allora, per fare intanto una giunta più larga bisogna che ci sia la disponibilità delle altre forze politiche, in particolare se ti riferisci a 5 Stelle, con un Andy Rivieni. No, hanno detto di no. Prima hanno detto di sì, poi hanno detto di no, poi forse, poi è arrivato Grillo che ha chiarito la situazione. Quindi quello si può fare. Io non penso che noi rimettiamo in piedi questa vicenda semplicemente se cambiamo questo o cambiamo quello. Deve cambiare la politica. Cioè quello che questo è chiaro. La politica, mi riferisco alla politica amministrativa, cioè deve essere ovviamente molto più efficace. Ma secondo te è il caso di commissariare il comune? No, perché qualcuno ancora ci pensa, perché c'è un'infiltrazione pazzesca, però bisogna dire la verità. Allora, io all'inizio ero incerto e dicevo di no, poi ci sto pensando seriamente, perché effettivamente comuni sono stati sciolti per molto meno alcuni comuni. Cioè... Allora, il problema del commissariamento non è un tema di ritallo politico e di campagna elettorale. Ci sono dei criteri che vengono valutati da chi deve prendere queste decisioni, che sono tecnici e giuridici, sulla base dei quali se ci sono i termini per sciogliere il Comune di Roma va sciolto, come si è sciolto quello Ma questo, ma secondo te non ma ci sono questi... No, io non ho degli elementi per dirlo. Io penso che la decisione che ha preso Alfano dando mandato a Pecoraro sia una cosa invece positiva, non la vivo come un commissariamento, anche perché diciamo il casino è talmente vasto e talmente profondo che avere qualcuno che sia terzo e che possa aiutare l'amministrazione a verificare ambiti molto molto deteriorati sia un fatto positivo, non lo vivo come... Però diciamo la verità, a parti inverse... Commissariamento no, a parti inverse, un attimo che c'è la pubblicità, dunque mi risponderai dopo, in una situazione in cui c'era un sindaco di centrodestra, in cui alcuni assessori si dimettono perché considerati complici di una cupola mafiosa, perché di quello si sta parlando, questo signore Buzzi che ottiene degli appalti anche da questo comune, paga una parte della campagna elettorale al sindaco, che è considerato il capo della cupola, lo stesso signore che ottiene pure, pare, un immobile a prezzi, diciamo, di favore, lo avreste massacrato, caro Roberto, diciamo la verità. Dopo la pubblicità mi dà la risposta, ma sono sicuro che risponderei con onestà. Siamo ad alti livelli qua, Comunque mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria. Questa era la signora Romina Power ospite. Che ha fatto un film anche adesso, film contestato dalla sinistra, vabbè, chi se ne frega. Di alcuni di una giornalista insieme all'operatore che sono andati nella cooperativa 29 giugno e hanno fatto delle domande al braccio destro di Buzzi, che è un tale che si chiama Claudio Bolla. Questo qua dice siamo andati alla cena di Renzi con Buzzi e altri, ognuno di noi ha pagato 1.000 euro, insomma il tavolo è costato 5.000 euro. No, anche so, 5.000 se non sbaglio. Beh, è normale, costava 1.000 euro a persona per chiunque. Sì, sì. Comunque la cosa incredibile è che Buzzi, prendeva 25.000 euro al mese. 25.000 euro al mese. Ma chi è che controlla i bilanci di queste cazzo di associazioni? Comunque, sentiamo Bolla. Voi li considerate persone di sinistra? Voi siete in area PD? Io sono di sinistra. Area PD. Il consorzio è area PD, la cooperativa è area PD, si può definire così? La cooperativa, che ne so, cioè... E voi siete stati alla cena di Renzi, di sottoscrizione? Certo, c'era anche Buzzi? Sì. C'eri tu, Buzzi? E Guarani? E altri due che non hanno alcune cariche. Che ok, quindi di questi cinque due sono in carcere. Sì. Quindi due delle persone che erano alla cena di Renzi, di sottoscrizione, sono adesso in carcere. Sì. E quanti soldi avete dato come cooperativa? Allora, dato che si pagava 1.000 euro a persona, immagino che abbiamo dato 5.000 euro. L'unico dubbio che mi è rimasto è che i tavoli però costavano 10.000. Allora, una risposta onesta da Roberto Giachetti, che è vicepresidente della Camera, Partito Democratico, ma che è stato anche capo di gabinetto di Rutelli per diverso tempo. Allora, Roberto, se ci fosse stato un sindaco diverso in carica, con questi legami indubbi che ci sono con Buzzi o con questa cooperativa, come le aveva prima Alemanno, come le aveva prima anche Veltroni, avreste fatto l'inferno, diciamo la verità. Allora, spero di non farti ricevere dalla convinzione che sei una persona onesta. Ti dico che avrei fatto esattamente quello che ho fatto questa volta, cioè chiesto che chi deve prendere una decisione che non è una questione politica, ma è una questione che deve fare riferimento a cose concrete e che deve valutare quindi l'incidenza che può avere dentro l'amministrazione questa vicenda, avesse deciso il prima possibile. E qui sono convinto, anche perché, parliamoci chiaro, il commissariamento, al di là del fatto che si va a votare dicendo, è una vicenda che sarebbe comunque ulteriormente un aggravio disastroso sull'immagine di Roma. Vabbè. E di tutta... no, quindi ma Marino è il sindaco giusto per te, per gestire questa fase, sì o no? Marino è il sindaco. O è quello che c'è? Marino è il sindaco che è stato eletto dai romani e che adesso, come ti ho detto prima, deve sicuramente accelerare e fare un salto di qualità nell'amministrazione della città, anche a partire dai controlli, dalle verifiche, da tutto quello che va fatto. Non è che c'è un sindaco... cioè, è possibile che nessuno si rendeva conto che questo aveva uno stipendio dalla cooperativa di 25.000 euro al mese? Dunque c'è qualcosa che non andava se uno si dà uno stipendio di 25.000 euro al mese, uno che non perché è un ex carcerato, erano i soci, diciamo. Mi sembra... Però io sono d'accordo con te, però questa non è una cosa che può essere imputata a Marino, cioè il controllo sulle cooperative probabilmente è arrivato anche il momento che, sapendo perfettamente che la stragrande maggioranza delle cooperative, non lo dico solo per dire, ma ne sono convinto, offrono un servizio e diciamo in modo assolutamente pulito, regolare, non c'è nessuno che si arricchisce, dicendo però... dal momento in cui evidentemente episodi di questo tipo si verificano, è evidente che c'è esigenza di fare dei controlli sia nei rapporti che l'amministrazione ha con queste associazioni e sia probabilmente però da altri soggetti che devono controllare. Senti, gli vuoi dire tu che conosci Roma e queste cose qui, basta bicicletta fatte da una scorta e basta? Io lo trovo insopportabile questa cosa qua, anche perché anzi, no, ma anche perché credo, Parenzo, no, si sa che secondo lui me è una delle poche cose belle che ha fatto Marino. Dietro la roba della bicicletta ci sono 12 persone pare. Che lo seguono. 12 persone impiegate in questa storia della bicicletta. Diglielo pure. Guarda, tu. Prenditi la scorta e basta. La mia opinione è che quando si decide di assumere una carica pubblica, inevitabilmente si deve mettere nel conto che anche alcune libertà alle quali uno è abituato, e dunque? Dicendo, fanno parte. Quindi io penso che lui debba prendersi la scorta, perché se ci sono problemi di sicurezza non è in questo Ignazio Marino come persona che va bene, è un problema suo, ma c'è una responsabilità di una carica pubblica, cioè, almeno chi non lo scorta, certo. Chi non lo scorta, paradossalmente, se succedesse qualcosa avrebbe anche la responsabilità del fatto che poi non l'ha scortato. Cioè, è una situazione di questo tipo e il prefetto va e gli dice che è necessario prendere la scorta. Penso che lui debba accettare la scorta. Anche perché, sapendo perfettamente quanto costa in termini di libertà personale, delle proprie abitudini, tutto. Però, no, ma il sindaco di Roma, di principio, diciamo in default, prende la scorta, una sola macchina, ma la scorta la prende, punto e basta, arriva agli appuntamenti con la scorta, con la macchina. Anche perché, ragazzi, avete visto cosa è successo a Enzo Bianco? e lui c'aveva pure la scorta. È tornato a casa, si è trovato davanti uno, quello era sceso dalla macchina, stava entrando dentro casa, gli ha dato un pugno in faccia e l'ha teso. Vabbè, questo può succedere anche a me, devo dire, anche sì, però voglio dire, se tu non sei il sindaco di Roma, sì, perché per diciamo con la tua cattiveria ti fai tanti amici e anche tanti nemici, però quello amministra Roma e ovviamente c'è tanto più delle intercettazioni, sono poi determinate cose, adesso basta la scorta. Senti, ma come si fa a pensare di candidare Roma per le Olimpiadi, Robè? Diciamo, dimmela sul serio, veramente, in questa situazione. Te lo dico esattamente come quando noi prendemmo nel 93 la città, che non so se ti ricordi, ma c'era mezza giunta che era arrestata e un signore che si chiamava Gerace che girava con la macchina per non farsi arrestare a casa perché arrivavano i carabinieri. Sì, come no, certo. Abbiamo avuto, ma ovviamente per questo ti dico la politica conta, il lavoro conta. Cioè, secondo te è giusta la candidatura? Abbiamo avuto la sfrontatezza di candidare, poi Roma non ce l'ha fatta, ma di candidare Roma per le Olimpiadi del 2004, perché noi non dobbiamo pensare che adesso questa città è ripiegata su se stessa, è destinata a morire. Beh, oggi Verdone ha detto che la gente scappa da Roma, è una città finita, cioè ecco, ma io non credo questo, io non penso che questo aiuti. Cioè, il pessimismo degli artisti. Dare un'immagine di Roma e dei romani ormai... Cioè, Roma fa schifo, non è così. No, è una situazione difficile per nostra responsabilità collettiva di tutta la classe dirigente, per essere chiari, dalla quale noi innanzitutto abbiamo la responsabilità di aiutarla a uscire fuori. E io sono convinto che se ci sono delle opportunità, queste vanno colte lavorando in modo ben diverso. Per cui Olimpiadi avanti tutta, diciamo. Giuseppe, noi abbiamo fatto il Giubileo, io facevo il capo di gabinetto. Vabbè, di Giubileo... Io ho firmato decine e centinaia di delibere per miliardi di lire a suo tempo, e non c'è stato uno scandalo, io non ho avuto un rilievo della Corte dei Conti, non c'è stato un morto, cioè in un si cantiere. Possono fare le cose a Roma senza corruzione, sì. Dici tu. E il giubileo ti dimostra che si possono fare, le opere le vedi, stanno lì, non è che sono come la stazione dei mondiali del 90 che è diventata adesso la cosa di fare niente. Ma secondo te il difetto principale di Marino qual è? L'arroganza? Il fatto di parlare, guarda, è presuntuoso? Non voglio dire presuntuoso, però penso che per amministrare una città come Roma ci vuole una straordinaria dose di umiltà e predisporsi a... E lui? E ce l'ha Marino? Io credo che lui, l'approccio che ha è un Se dici che ci vuole questo, di eccessiva sicurezza, che credo nel corso del tempo, con le vicende che gli sono accadute, sicuramente avrà dovuto... Eccessiva rivedere. Sicurezza, come mi sei diventato diplomatico. Allora, siccome ci conosciamo, tu stai da 20 minuti cercando di trovare le piccoliche dell'agenzia e poi io sparo... Ma figurati, no, ma tanto lo sapevo che non avresti sparato contro Marino, per cui non è quello il punto. Io ti dico quello che penso. Vabbè, ma se è presuntuoso, uno dice è presuntuoso, punto. Cioè, non è che dico che è presuntuoso, dico che per amministrare una città come Roma ci vuole una dose straordinaria di umiltà. E lui, a mio avviso, non l'ha avuta in questa vicenda. Oh, vabbè, vedi, questa è una risposta chiara. Una risposta chiarissima. Ma era chiara pure prima. No, non era chiara prima. Tu ci vai in bicicletta a Roma oppure è troppo pericolosa? No, io come noto vado in motorino e vengo fermato dai vigili urbani perché mi accusano di non avere la macchina in servizio. E le multe le paghi? Le multe le paghi? Sempre in tempo. Io sono talmente scemo e vivo di ansie che le pago in anticipo. Anche se mi arrivano senza, che so, ma quanto te ne arrivano? Quante te ne arrivano di multe? Io pure ormai le pago tutte subito. Penso che me ne arrivano un paio all'anno e quasi tutte perché transito sulla corsia di via del Corso con la moto e siccome non abbiamo il permesso come macchine, ho cercato di spiegare ai vigili urbani che io, non avendo più la macchina di proprietà perché l'ho venduta 6 anni fa, potrei passare perché il permesso è in ragione al motorino. Col motorino dovrebbero essere anche contenti perché non come noi. Un'altra follia che uno ha il permesso per passare da via del Corso con la macchina, un deputato, lasciamo perdere. Sì, ma voglio dire, adesso al di là di quello, però io ogni tanto passo, quando riesco mi fermo, spiego dicendo, qualche volta mi va bene, qualche volta non si convincono e mi fanno la multa. Che devo fare? Vabbè, ciao Robè, presto. Ciao, grazie a voi. Ciao David. Io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serva. Valerio da Roma. Sì, pronto? Vai, dimmi. Buonasera Grossani. Vai. Grazie per la possibilità, sarò velocissimo. Ma innanzitutto ma Parenzo ve l'hanno imposto? Perché sennò non si spiega comunque. Velocissimo, dopo quello che abbiamo visto ieri sera in TV, io penso che si sono organizzati no con i caravan, con i pullman, i rom che stanno arrivando in Italia. hanno ascoltato con le loro orecchie, sì, che praticamente arrivando in Italia hai 24.000 euro a famiglia di, con un nucleo di 4 persone. Sì, 3.000 euro a, più o meno 3.000 euro a persona, se non sbaglio, no? Quindi è perfetto. Siamo passati da 4-5 mesi fa di quei rumeni che hanno, tramite intercettazioni hanno sentito che parlavano con i propri connazionali, li invitavano in Italia dove li avrebbero indirizzati alle ville da saccheggiare, quindi tranquillamente venite qui, vi diamo noi, vi diamo i posti dove andare a rubare. Questo 4-5 mesi fa. Oggi no, ma ho capito, Valerio, stiamo mandando questo messaggio che è bellissimo, per cui secondo me mentre noi parliamo sono già in viaggio dopo ieri sera. Cioè tu dici che basta vedere una trasmissione in Italia e uno si rende conto che in realtà i rom qui sono foraggiati. Sì, è vero, sono foraggiati. Sono un po' ironico, però è no, no, sono foraggiati, però è anche vero che poi hanno fatto vedere delle immagini pazzesche in cui i soldi per il mantenimento dei campi rom, se uno poi fa i campi rom li deve mantenere. Per me è assurdo fare un campo rom. Non c'è però, dubbio. Diciamo, esistono i campi rom, esistono degli stanziamenti per la manutenzione, dopodiché ci sono le fogne a cielo aperto, e le robe che non sono riparate, le solite con quei cose. Soldi, quante cose potevi fare? Sì, ma non è campo rom, è da un'altra parte. Comunque, se uno ma vuole riparare. Già che si dice quante cose si potevano fare con quei sì, soldi? Sì, solo che i soldi della manutenzione stanziati e dati a certe aziende, poi chissà dove finivano, probabilmente nelle tasche di qualcuno, perché quei campi rom andavano, come dire, allo scatafascio. Spesso sì, però le fogne a cielo aperto, le riparazioni che non si facevano, le mura completamente distrutte. Quello è. Va detto una cosa, io sono un imprenditore, da Roma, un'azienda. Sì. Senza che faccio l'elenco delle cose che fa, di cui mi occupo. Allora? È vero che la manutenzione in un certo qual modo ti rientra, perché comunque le aziende lavorano, le persone lavorano. Certo, quando è sana, non come in questo caso, e mi auguro. No, ma io sto dicendo comunque che c'erano dei soldi stanziati per la manutenzione di questi campi. Il fatto è che questi campi facevano schifo, non se ne occupava nessuno, la manutenzione non veniva fatta, dunque i soldi se li invertava qualcuno, come si dice a Roma. Ma, mi scusi, ma queste persone che vivono lì dentro e passano la giornata seduti su una sedia di plastica a grattarsi la pancia e vedere questi bambini che si spingono l'uno con l'altro sui passeggini che giocano con i topi, no? Ma la manutenzione non la possono fare. I rom che ieri sera faceva vedere alla. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Il bottone staccato che casca l'acqua, va lì lo stringi. Ma qua, quelli che stanno dentro i campi rom, guardi, quelli che stanno dentro i campi rom, che spesso sono conniventi dei ladri, per me sono manco vanno considerati dal punto di vista della discussione. E cioè, poi non erano nomadi. Ma a me lo dice, per me o uno è nomade o si deve cercare la casa. Ma non sono più nomadi da anni ormai. Non mi interessa, dai. Gli stanziamenti sono assurdi, devono essere eliminati. Parenzo, gli stanziamenti. Secondo me dovresti andare a vivere là comunque. Ma no, ma Parenzo che c'è? Parenzo vive a casa sua e poi. A casa mia che me ne frega. Dico semplicemente. No, dico semplicemente che alla fine di tutto questo qualcuno politicamente ha raccolto questo male, questo schifo. Quello tutti, che c'è stato in quello questi tutti. Anni. Chi li sfruttava politicamente a no, sinistra, chi li sfruttava chi a destra. Elettoralmente lo ha raccolto sto schifo. Un altro secondo e chiudo. Dai, dimmi. Dimmi, vai. Abbiamo un problema di tassazione, mi perdoni, ma mi riguarda da vicino. Ma il famoso 20-25%, mettendo il reato d'evasione, cioè un reato penale, evasione reato penale, che poi può andare dai 2.000, perché tanto comunque l'evasore siamo tutti, no? Quando non chiediamo la ricevuta piuttosto che cerchiamo di pagare per risparmiare qualche cosina al dentista in nero. Ora voglio dire, il reato penale non sarebbe più un qualcosa di illogico, quindi abbasso l'evasione, abbasso la tassazione e metto il reato penale, ti metto in condizioni di pagare le tasse e ti arresto, ti faccio un precedente penale nel caso in cui tu evadi. Era un pensiero così, perché insomma tutto qui. Va bene, andiamo, dove andiamo? Andiamo. Luigi, provincia di Chieti, vai, poi traffico, vai. Intanto poi vi leggo una cosa, Luigi, vai. Sì, pronto, buonasera. Vai. Sono Luigi, chiamo dalla provincia di questo Chieti. L'ho già detto io, caro Luigi, vai. Va bene, sono un appartenente alle forze dell'ordine. Che vuol dire? Mi piace, che vuol dire in che senso? Faccio parte delle forze dell'ordine. E mi dispiace che su queste vicende qua di Roma ci si scherzi. Noi siamo stati bistrattati in questi 4 anni con i vari blocchi stipendiali, e quello che mi dà fastidio è che certa gente si è approfittata e continua a approfittarsi, a rubare, lì hanno rubato anche i nostri soldi, e sarebbe una cosa talmente vergognosa che non sarebbe da scherzare. Sono talmente arrabbiato, avvilito, che certa gente ci scherza su, se questi fanno i loro porci comodi a discapito di gente che ha fatto un sacrificio, sperando che il sacrificio... E dunque che lei che cosa farebbe di questi ladri? Cosa farebbe? non spetta a me giudicare. No, cosa farebbe? Cosa farebbe? Che pene darebbe a un ladro, a uno che ruba soldi pubblici? Che cosa farebbe? Pubblici? Guardi, io metterei anche l'ergastolo, che le devo dire. L'ergastolo, traffico, torniamo subito, Luigi. Mi scrive un'ascoltatrice, Maria Cristina. Ricevo la copia di Cosmopolitan a seguito di una proposta telefonica di abbonamento. Una rivista leggera che scorre in 10 minuti, 12 euro l'anno. Ma sì, paghiamo, aiutiamo l'editoria. Magari la mia figlia, la mia ragazzina di 14 anni, comincia a leggere qualcosa di moda, di beauty. E cosa trova a pagina 195 del numero di dicembre? Le istruzioni per come eseguire correttamente un bocchino. Per far felice lui, ti giuro. Così. Questa è una lettera che ho ricevuto oggi. Allora, premettendo che non sono scandalizzato dal fatto di saper fare un pompino, scrive sempre al sottoscritto questa ascoltatrice, ben venga, naturalmente. Vedi che l'ha indirizzato a te, non ad esempio. Beh, certo che l'ha indirizzato a me, ma è normale. È normale. Leggete l'articolo, una vera spazzatura, dice lei. Maria Cristina. Beh, allora, ovviamente ci ha mandato l'articolo. Il suo regalo, ti giuro, così è, il suo regalo preferito, senza dubbio. Ha fatto il bravo bambino e vuoi premiarlo con una sorpresa molto speciale. Stupiscilo con 7 trucchi di sesso orale, ti giuro, così, di sesso orale, che lo lasceranno a bocca aperta e soprattutto ben disposto a ricambiare. Ti giuro, così sì, così hanno scritto. Ma sono geniali, signori di Cosmopolitan. Cosmopolitan, ti voglio abbracciare, non la conoscevi? Ti voglio abbracciare fortissimo, sì, come no? No, io dico all'ascoltatrice Maria Cristina, non ti scandalizzare, la ragazzina di 14 anni che comincia a leggere qualcosa di moda, di beauty, a 14 anni adesso, non è che uno si può scandalizzare perché legge questa roba qua, cioè lo saprà il significato delle parole, poi dopodiché... È una rivista che uno deve sfogliare, ci deve arrivare. Comunque ti leggo solo, diciamo, una delle istruzioni, no? L'armonica. L'armonica, la fisarmonica. Aspetta, l'armonica, c'è scritto così, uno dei consigli è l'armonica. Comincia a fargli la festa. Questa è l'istruzione che si dà a una donna. Comincia a fargli la festa. Inumidisci il pene con la saliva, ti giuro. Ma non buttarti subito sulla punta, che è super sensibile. È una cosa quasi incredibile. Ma chi è, così, l'autore di questo pezzo? Non lo so. Voglio conoscere l'autore, l'autrice di questo pezzo. Ti prego. Esatto. Ma non buttarti subito sulla punta, che è super sensibile. Varia la stimolazione facendo scorrere la lingua su e giù lungo l'asta. Ma ti giuro che è scritto così su Cosmopolitan. No, ti prego. Ti prego. Dovrai esibire. E sai cos'è che anche non mi stupisce? Che cosa? Dimmi. Ti prego, che abbiano indirizzato a te questa missiva. Vabbè, ma questo che c'entra? Amico mio, dovrai tra tutti le voice della radio, no, che ne il sai, signor magari... Oscar Giannino, signor Carruba, ad esempio. Perché ora magari il signor Carruba, il nostro amico Carruba, ad esempio. Hanno indirizzato al signor Barisoni. Ma no, o al signor Magol, come si chiama? Che cazzo dici? No, Magol, no, Meletti. Ma cazzo c'entra Meletti? Minoli al massimo. Signor Minoli. O allora, al aspetta, signor però, del mattino Milan. Fammi finire, però, finire. Questo potrebbe essere la segna stampa di Milan, però, Cosmopolitan. No, secondo me non la metti. Varia la stimolazione, facendo scorrere la lingua su e giù lungo l'asta. Dovrai esibirti come una virtuosa del jazz che suona l'armonica. Cioè, il pompino come l'armonica. Questo è il primo consiglio. Che vi do, cari ascoltatrici della Zanzara. L'armonica. Nei prossimi giorni il resto. Vi piace un mondo così? Beh, a me, insomma, non dispiace un mondo così, adesso, se vogliamo essere proprio sinceri. Vi piace un mondo così? Sì. A me fa cagare un mondo così. Te, un mondo così fa cagare. A te fa cagare. A me, caro Dinolfi, non fa cagare un mondo così. Non fa cagare. Senti, nei giorni scorsi c'è stato un episodio, una senatrice dei 5 Stelle che mi ha colpito, forse l'ho già detto. No, scusa, volevo sapere questo, ma è vero che signora Dinolfi ha dato il suo numero di cellulare? Sì, una volta, in la mia, diretta. Sì, in diretta, ha dato il suo numero di cellulare, non so per che cosa, forse gli arrivano degli insulti, vecchio ciccione di merda, no. brutto omofobo, queste cose qua. Nei giorni scorsi una senatrice dei 5 Stelle, eletta con i 5 Stelle, che poi ha lasciato subito il Movimento 5 Stelle, che si chiama Ani Tori, la senatrice Ani Tori, è passata con Alfano, cioè tu ti rendi conto, no? È passata il signor Alfano, cioè è passata eletta con i 5 Stelle, adesso è senatrice di Alfano, anche Formigoni l'ha accolta con un tweet. Subito, scusi. Che dici, ci proviamo? Subito. Proviamo, dai. I'm just looking for some touch. Sì, senatrice Anitori? Sì, di chi è? Buonasera, è Radio 24, la disturbo? In questo istante sto andando in commissione un pochettino, sì, devo essere sincera. No, volevo chiederle come mai dopo tanto tempo si è deciso a passare al nuovo centrodestra? La verità? Sì, certo. Perché ho lavorato con tutti quanti in modo, come posso dire, corretto e leale, con tutti gli schieramenti, mi sono trovata bene con tutti gli esponenti della maggioranza. Però di più nel nuovo centrodestra? No, diciamo che sono legata territorialmente a una figura importante con cui ho lavorato in commissione pure. E chi è? È il ministro della salute, che è del territorio, sì. Quindi la Lorenzina è semplicemente è più, certo, sembra bizzarro, scelta, mi scusi se gliela, è una se scelta di no, cuore di cuore, certo, ma non è una scelta, anzi, cioè io non, anzi la mia difficoltà è con qualsiasi altro esponente della maggioranza, perché devo essere sincera, ma anche quelli di Forza Italia, tutte le persone che ho conosciuto sono squisite, per fortuna. Però mi scusi, non è un po' bizzarro, adesso glielo chiedo in maniera spontanea, passare dal Movimento 5 Stelle? È vero che lei era già uscita. No, io non sono stata nel Movimento 5 Stelle, sono stata poco, lì stavo in una setta. Beh, è stata eletta con i 5 Stelle però. Sì, ho capito, però mi hanno preso in giro, io pensavo fosse una cosa, cioè mi avevano venduto un prodotto diverso, io mi sono trovata smarrita, non potevo fare nulla lì. Ormai io non capisco più gli schieramenti, io sinceramente lavorando in commissione in modo così trasversale, questa storia degli schieramenti la vedo molto... Cioè secondo lei non c'è nessuna differenza tra il Movimento 5 Stelle e il Nuovo Centrodestra? No, il Movimento 5 Stelle non c'era... Cioè è finito secondo lei? È finito? No, non credo proprio che sia finito, no. In parte rimarrà uno zoccolo duro. Però non era assolutamente quello che io mi aspettavo. Ma oggi Grillo in cosa si è trasformato, secondo lei, scusi? Cosa è sempre stato? Perché nessuno ha visto. Vabbè, il partito è suo, insomma, io e altri non contano nulla. Beh, è stato sempre così, però, sin dall'inizio, non è? Pensavo che ci fosse all'inizio questo tipo di atteggiamento, semplicemente perché quando si forma un nuovo gruppo qualcuno deve tenere la barra. Però mi scusi, senatrice, ma non è il caso, scusi, se uno passa dal Movimento 5 Stelle al Nuovo Centrodestra, non è il caso di dimettersi? Perché... No, innanzitutto non sto nel gruppo del Nuovo Centrodestra perché io sto nell'area popolare, semmai. Vabbè, è andata col Nuovo Centrodestra, lei stessa mi ha detto che è andata col ministro Lorenzin. Sono legata a lei, però io sono entrata nell'area popolare, io non sono nel Nuovo Centrodestra. Però non è il caso di dimettersi, secondo lei, no? A parte pure che se mi dimetto e prendo in giro il popolo dicendomi voglio dimettere, poi perché mi dovrei dimettere adesso? No, una domanda, perché lei è stata eletta con i 5 Stelle e adesso passa ad una cosa completamente diversa. Io sono stata eletta in 5 Stelle, sono uscita e sono andata nel gruppo misto, mi dovevo dimettere pure all'epoca. È curioso che lei in un anno e mezzo viene eletta con Grillo e poi sta con Alfano e Casini, ma no, ma è un'osservazione. Ma in qualsiasi cosa sarebbe stata la stessa cosa? Beh no, nel gruppo misto un anno e mezzo, però è diverso stare nel gruppo misto rispetto ad andare con persone che sono esattamente all'opposto del gruppo in cui lei è stata eletta all'inizio, cioè i 5 Stelle sono proprio... Io tutto sto opposto, posso essere sincera? Non lo vede. Non vedo niente, lì non Grillo niente. E Alfano, beh signora, senatrice Anitori. Ho capito, dopo un po' che uno scrilla, neanche lei potrebbe stare con Grillo. Abbia pazienza, se uno vuole risolvere le cose non deve strillare, deve dialogare. Cioè non deve stare con Grillo, se vuole risolvere le cose... Deve dialogare, deve stare in Parlamento, se uno sta in Parlamento dialoga. Questi dissidenti del Movimento 5 Stelle che fine faranno? Non lo so, io spero che io ho tanto sperato di fare un gruppo con loro, perché era la cosa più naturale del mondo, non c'è stata possibilità purtroppo. Ma lei ha più restituito lo stipendio poi oppure lo prende per intero adesso? Allora, sono riuscito a fare una battaglia per ottenere un giudice di pace, un tribunale di giudice di pace a Ossia, e ci sono riuscito e sono molto orgoglioso. No, ma quello va benissimo, sto dicendo, siccome lei è stata eletta con la promessa... di più che fare la carità pelosa che non serve a nulla. Dunque lei non restituisce più la sua parte di stipendio? Non è importante questo. No, ma è una domanda, scusi. Io sono affari miei, non spetta a nessuno. Lei è stata eletta con quel mandato lì. Sì, ma io sono stata eletta dicendo una cosa e poi sono state cambiate le carte in tavola. Sì, lei vada a rileggere. Ma non su questo però. Che non era la diaria. Lei si vada a rileggere. No, ma lo stipendio sì però, la restituzione di metà dello stipendio. Ma questi sono affari miei che a lei non interessano. Ma come sono affari suoi? È una promessa elettorale? Non è una cosa politica. Adesso devo andare in commissione e la lascio. Va bene, grazie, arrivederci. Ma che vergogna, ragazzi, che vergogna. Cioè è evidente che non restituisce più lo stipendio, no? Uno viene eletto dicendo restituirò metà dello stipendio, dopodiché si rompe i coglioni di Grillo, e questo è comprensibile, esce. Secondo me se uno viene eletto con Grillo poi si dovrebbe dimettere dal Parlamento, ma lasciamo perdere questo discorso. E adesso non vuole nemmeno dire che prende tutto lo stipendio, perché lei prende tutto lo stipendio, è evidente che prende, altrimenti avrebbe detto no, ho mantenuto la cosa di prendere metà dello stipendio. Prende tutto lo stipendio e dice che sono affari nostri e che il resto, quello che fanno quelli dei 5 Stelle, è carità pelosa. Anche secondo me è sbagliato versare questo stipendio, eccetera. Uno si tiene lo stipendio e fa attività politica, ma il punto fondamentale è che uno non può dire no, sono affari miei. Non sono affari tuoi. Sei stata eletta dicendo che prendevi metà dello stipendio da 5.000 no, a 2005, e beh, adesso, amica mia, questo è vero. Dopodiché ha cambiato movimento. E ma non lo dicesse, lo dicesse che si tiene tutto lo stipendio, rivendicasse questa cosa, dicesse era una buffonata, ho sbagliato, quando sono stata eletta ho detto una cazzata, perché anche lei avrà promesso che si sarebbe ridotto lo stipendio dalla metà, ho maturato l'idea che era una cazzata e adesso mi serve tutto lo stipendio. Va benissimo, però uno lo dice, no? Luca, Milano. Pronto? Dimmi. Sì, buonasera. Io volevo fare due denunce. Denunzie. Una scherzosa e una sì, un po' più seria. Quella scherzosa è, volevo capire come mai è cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Chi? Cioè, su base di che cosa è chi stato è cavaliere? Nel 94 cavaliere. Ma Berlusconi, ma nominano cavaliere un sacco di gente, adesso poi non ha manco più quel titolo perché lo hanno mezzo destituito da quando è stato condannato. Ma il cavaliere del lavoro in Italia, poi comunque ha dato un sacco di posti di lavoro Berlusconi, cioè non è che proprio da questo punto di vista, poi se uno ha delle condanne viene destituito da quel titolo, chiaro? No, non Berlusconi, Razzi. Ma Razzi non è cavaliere, ma che cazzo sta di? Pronto? Vabbè, un attimo solo, fermo lì, Luca, fermo. Ma dai, ma per favore, ma Cruciani, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia più totale e tutti stanno zitti, ma stiamo scherzando. Tipi da zanzara, signori miei, tipi da zanzara, sentite questo meraviglioso ascoltatore. Tipi da zanzara. Emanuele da Udine. Sì, pronto, buonasera Cruciani. Dimmi, dimmi, sì. Salve, buonasera. Allora, io volevo dire questa cosa qua. Io sono di solito una persona calma, pacata, portata al dialogo, ma mi sono rotto i coglioni, va bene. Allora, in 6 mesi abbiamo avuto Expo, quel cazzo di Mose che non serviva un cazzo di niente, se doveva solo rubare soldi. Adesso si prende, si arriva a questa cazzo di Roma e si viene a scoprire che c'è la mafia. Oh, c'è la mafia, c'è la mafia. Ma di che cazzo stiamo parlando? In un paese normale, se fosse successo un decimo di quello che è successo in Italia in quest'anno, cosa cazzo sarebbe successo? Qua invece facciamo fare tutto a Marino, adesso Marino non è capace neanche di fare la O col culo sul foglio col fondo del bicchiere. Ma dai, ma per favore Cruciani, abbiamo un piazzista presidente del consiglio, abbiamo un condannato che dice che deve essere, bisogna andare alle elezioni a Roma, ma di che cazzo stiamo parlando? E dopo vuole mettere la veniera, sindaco di Venezia, una che ha copulato con Jerry Calacca. Vabbè, questo che c'entra, scusi. Ma sta scherzando, Cruciani? Ma cosa ma ti prego, sapere ti prego. La veniera di Venezia? Ti prego, ma ti prego. Ha ragione. No, però va bene, ti prego, ti prego. Però scusami. Io le posso dar ragione, ho capito, su tutto Cristo Santo, ma... Ho capito, ma se quello vuole mettere mano a veniera, sindaco... Ho capito, ha copulato con cosa, non c'entra niente, uno può avere scopato con chi vuole, scusi. Ma si rende conto che personaggio è Calacca? Cioè, voglio dire, non è Rubbia. Ma che c'entra? È Jerry Calacca. Ma quello è stato puttana. Uno con cui ha... Ma sì, ma cosa fa la gente? Cosa fa la gente? Fanno queste cazzo di protestine fuori dalla scala. Ma stai fuori con la testa. È come cazzo... Ma adesso, io voglio dire, un ex della banda della Magliana... Sì. Ti ha contatti col comune di Roma, sì. È come se puttana Eva Mengele di Obono avesse dei contatti con il governo tedesco. Ma di che cazzo stiamo parlando? Questo devo dire la verità. No, però devo dire la verità, non è sbagliato. Non è sbagliata come cosa. Non è sbagliata. Tipi da zanzara. Ragazzi, ragazzi, diciamo la verità, su questo adesso detto in un modo un po' bizzarro, non ha tutti i torti questo ascoltatore, eh. Cioè, Parenzo, adesso lascia perdere il modo. Ma ti pare normale che uno che ha il curriculum criminale del signor Carminati possa avere contatti con uno delle cooperative, col comune di Roma, con i consiglieri comunali? No, ma non discuto, discuto perché non sono uno dell'Accademia della Crusca che discute il modo. Su. Ma se questi qui se avevano una cooperativa, in particolare il signor Buzzi. Ma c'era Carminati, no, ma uno sono che c'ha una con te su una fedina penale sono lunga. Dei criminali, sono dai, dei criminali. Su. Dopodiché questa roba qui sta gettando discredito. No, ma la cosa peggiore, l'hai già detto, la cosa peggiore sono l'hai già detto, sono i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, quelli che avevano rapporti con questo Carminati. C'è uno come Carminati, non deve avere contatti con i non politici. C'è dubbio, basta, non c'è punto. Dubbio. Allora, signora Carmen Di Pietro, fascista, sì, buonasera, ciao. Come stai? Ah, guarda, io sto molto bene, anzi, ma aggiungo benissimo, guarda. Benissimo, sei ma sicura? Di Pietro è parente di Pietro? Sì, assolutamente. No, non sei parente di Tonino, chiedo. Di Pietro, no? No. No. Ah, è la signora Carmen. Carmen questa. Di Pietro, ex moglie showgirl, ex moglie del signor Paternostro, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Alessandro Paternostro. Grandissimo. Sì, con tanto orgoglio lo dico, guarda. Sì, io ho sempre certo, dichiarato che mi ritengo la signora Paternostro a vita. Per sono tutta sposata, la vita. Per esatto, tutta la vita. Bravo, esatto. E per quello che riguarda Paternostro, tu della pensione di Paternostro non puoi fare a meno. Diciamola tutta, come hai detto dalla signora. Guarda, sì, assolutamente. Non sono una miliardaria, sono una precaria e non posso permettermi di rinunciare a questa pensioncina, visto i tempi che corrono. Pensioncina quant'è, scusa, quant'è questa pensioncina? No, vabbè, ma non no, questa è molto importante, è molto importante, hai detto una cosa che non vuoi rinunciare alla pensione, ma che guarda, ti spetta. È tutto in dichiarazione dei redditi. Appunto, dici un po'. Non posso. Quant'è? Ma no, non mi va di dirlo perché non mi va di sbandereare. No, hai cose. Detto la pensioncina, giustamente bisogna dirlo, quant'è? 5.000, 6.000, ma amore, tra i mutati e quando mi chiama il commercialista per davvero. So cazzi, sì. No, come dico io, so cazzi. Questo l'hai detto tu, sì. Tassi, compagnia bella, alla fine non ti rimane quasi niente. Ma quant'è sta pensione? Spiegami, quant'è, Carmen? Diciamolo, facciamo un po' di trasparenza. Diciamo quant'è questa pensione che pigli, quella che aspettava il signor Paternostro. Vabbè, sono 5.000 euro al mese, via, dai. Guarda, è in dichiarazione dei redditi, è una cosa pubblica. Ma che vuoi che sia, sì, 5.000. Ma sì, dai, adesso per carità, non è che... Guarda, aspetta, io poi ho due bambini minorenni, lo sai, no? Sì, Alessandro, certo. E Carmelina, che non ha nemmeno 6 anni. Non c'è e quindi devo avere, e quindi devo avere i piedi per terra. Ma da chi li ha avuti sti bambini? Scusa che mi sono perso qualche passaggio. Da chi ce li ha avuti sti bambini? Dal compagno Giuseppe. Ah, Giuseppe, quello che ti vorresti sposare, ma non... Dire quel... Non ti vuoi sposare, se te lo sposi devi rinunciare a questa pensione, questo è il punto, no? Guarda, se devo essere ipocrita e dire domani mattina mi sposo e rinuncio alla pensione, no, perché io non sono Noi non vogliamo essere ipocriti qui, non vogliamo essere ipocriti. Allora che te frega di sposarti? Anche perché non sono, guarda, io non sono la regina Elisabetta, per cui non è che questo non c'è dubbio. Essendo la regina Elisabetta sono una miliardaria e sono una precaria, ti aggiungo, per cui non... Sì. Però qua, voglio dire una cosa, uno perché poi si deve sposare per forza, no? Cioè perché, non c'è bisogno. Perché te lo spiego bene, perché io essendo cattolica e anche pure praticante, sì, ecco, prima di morire, la mettiamo così, vorrei dare una famiglia vera ai miei figli, visto che sono anche loro. Vabbè, ma sai, queste cose ormai sono superate, capito. Che ti frega, sposate, convivente, convivenza, dai. No, perché i bambini tra di loro sono molto cattivi e quando in che dicono, senso? Sai, sono cattivi perché quando sentono che i genitori non sono sposati, capito? È questo. Sì, tu dici, gli altri bambini dicono tu non hai la mamma, tu non hai il papà, non sono sposati, ma è superata questa cosa, Carmen? No, non è superata. Almeno per i miei figli non è così. Parenzo, tu che dici? Come si può uscire fuori da questa impasse? Cioè uno o si sposa o rinuncia alla pensione. Beh, sono problemi seri. Guarda, sono problemi perché 5.000 piotte sono roba, Sì, ma tra condomini e bollette alla fine, ho guarda, capito, amica mia, 5.000 è tanta roba, Parenzo, amica tu, mia. Quanto guadagni, Parenzo, come? Quanto guadagni tu? Sì, io di più. No, dici non arriverò mai a quella pensione lì io. No, vabbè, comunque, ragazzi, posso dire una cosa? Dimmi, cara. Oggi, visto i tempi che corrono, sì? Oggi non si può rinunciare così facilmente. Aspetta. aspetta, oggi c'è solo la certezza, come dico io, all'incertezza per il lavoro, e quindi i bambini devono studiare, la scuola costa. Ma allora non te sposare, ma c'è una soluzione molto semplice: non ti sposare, che ti frega, te becchi la pensione fino a quando fino a quando crepi, cioè tra tantissimi anni. Beh, crepare è molto, molto carino e elegante. No, voglio dire fino a quando crepi, nel senso tra tantissimi anni, ho detto, Carmen. Sì, cioè, ho capito, in sì, maniera sì, cruda te lo dico, no? Cioè, ti becchi la pensione fino all'eternità, ecco, diciamo, è meglio così, fino all'eternità, e vabbè, non ti sposerai, vabbè, i tuoi figli se ne faranno una ragione poi a un certo punto, no? Ma io penso che i parenti del signor Paternostro non sono così contenti di questa tua cosa, no? Vabbè, questa è una cosa a loro, non è una cosa mia, io penso alle cose mie, ovviamente. Che t'hanno detto? Sono tanti guai. Sono incazzati, no, no, anche perché per loro io sono la loro matrigna, quindi non mi hanno mai voluta vedere, figuriamoci se me lo sai, no? Puntini, puntini, puntini, per cui essendo la loro matrigna, chi se ne importa? Cioè, io l'ho sempre accettata invece come figli miei, non posso dirlo, però come delle persone normali, invece loro mi hanno vista sempre come quella il mostro, diciamo, quella, il mostro, come il mostro della situazione, mostro. È peggio per loro, anche perché il papà è stato molto felice con me, non c'è dubbio. Quindi questo, ecco appunto, e questo è per me una cosa importante. Poi i pensieri degli altri io li lascio agli altri, anche perché io non critico le viviamo in democrazia, no? Sì, questo in non un c'è paese dubbio, libero, sì. Ecco, quindi ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni e il proprio pensiero. Però c'è, scusa, perché proprio ti devi sposare in chiesa, no? In chiesa perché te l'ho detto, perché sono sei cattolica. Punto, sì. Dove mi posso sposare? Vabbè, ma ormai, è finita sta cosa, il matrimonio, basta. Però dipende, se ci tiene. Dipende dalle opinioni, dipende come la pensi, dipende dalla tua cultura, come è nata, no? Senti, ma ti pare normale che Cosmopolitan, no? Una rivista, la conosci la rivista Cosmopolitan? Sì, ma hanno fatto un articolo pazzesco. Ma mi ha mandato una lettera un'ascoltatrice, no? Cioè, ti giuro, ci sono una, due pagine su Cosmopolitan che hanno questo titolo qua: il suo regalo preferito, senza dubbio, ci è rivolto agli uomini. Sì, ha fatto il bravo bambino e vuoi premiarlo, e puoi premiarlo, vuoi, adesso ho sottolineato una cosa, con una sorpresa molto speciale. Stupiscilo con 7 trucchi di sesso orale che lo lasceranno a bocca, ma ti giuro, scritto su Cosmopolitan. Vabbè, ma queste sono cavolate, non avevo, per l'amor di Dio, guarda. Amore, io faccio la mamma, posso stare dietro a Cosmopolitan. Ma no, ma per le bambine, le ragazze di 14 anni, questa ascoltatrice mi ha scritto, magari leggono una cosa del genere su Cosmopolitan e si impressionano, no? Cioè, si mettono... ma mi impressiono io che ho quasi 50 anni, figurati. Ma poi impressionare 50, quanti ne hai? 49, guarda, come me. No, aspetta, io il 24 maggio 1965 sono nata. Quindi no, 65, 65, io del 66, dunque un anno di differenza. Quindi sì, adesso il 24 maggio 2015. Però tu ti metti sempre con gente un po' più anziana, diciamo, un po' più grande di te. Ma questo che vuol dire? Non vuol dire nulla. Ma è una cosa, anch'io mi piace. Per esempio, Sandro è stato mio marito, io non dico quella persona, è stato mio Sandro, marito. Sì. Vabbè, era Padre Nostro. Era più grande, certo, pure lui, molto grande. Com'era la cosa di Padre Nostro? Com'è sì, che faceva? Sai che c'è, però? Fammi dire una cosa. Dilla. Arrivata a una certa età, io adesso ho 50 anni, magari poi 60 e poi 70, ma perché uno a 70 anni non è padrone di uscire con chi gli... Cioè, sempre sta cosa che uno... Sta cosa, sì. Io la chiamo sta cosa che uno si deve intromettere nella vita degli altri, ma uno è libero di uscire con chi gli pare. Ma non c'è dubbio, ma io lo dico... Non perché uno ha un'età, voglio dire, ma no, bisogna rispettare anche i pensieri. Ma sta cosa della pensione, vogliamo fare una battaglia per questa roba qua, della pensione... Ma sì che io la farei. Facciamo una battaglia, cioè sposa, in Italia, per amore, in Italia devi essere per forza ipocrita, devi dire per forza le bugie per farti, capito, rispettare, altrimenti sei sempre vista, come ti devo dire. Aspetta un attimo che c'è un ascoltatore che vuole intervenire, non so che, ti prego, aspetta, Antonio, provincia di Como, che è? Un'altra di quelle, la Santa Maria Goretti, anche questa qua. Ma cazzo, ma ora poi dite che. Ma questo è l'Italia! Ma perché? Che ha fatto? Che ha fatto sia di Pietro? Ma Cruciani, ma per favore. Ma che vuole mantenere, i suoi figli con la pensione? Ma non andate a prendere per il culo il prossimo! Questo se andate in giro a Paternostro perché aveva il grano! E adesso vi sta con la pensione! e basta. Ma, ma scusa, ma adesso sei offensivo, Antonio, abbi pazienza. Ma non sono offensivo, ma mi faccio pure la querela. Ma non tiriamoci per il culo. Ma vuole mantenere, dai, la pensione del signor Paternostro, ma perché ci sono i figli, eccetera. Scusa, abbi pazienza. Già è una valle dei coglioni questa, no? Ma almeno chiamate tutte le sere Valentina Rappi. Ok. La pornostar, sì, la signora, lei la conosce, la signora. Grandissima strafiga. Vabbè, ho capito, però. Sono trovato, mi piace farmi chiamare. Quelle sono donne vere, non queste qua. Ma scusa, ma quella fa la pornostar, Antonio. Ma non me ne frega, ma quella fa quello che fanno tutte le donne, tra le meno. Ma non si può, tu dici a trasferire la Valentina Rappi, poi questi quattro cafandroni che vanno in giro. Vabbè, ho capito. Anche per Santa Maria Goretti. Mamma mia, ma guarda. Cazzo, dai. Beh, ma ho capito, Antonio, ma non si può. Ma come si fa? Sono sul camion in questo momento qui, c'è un bilico in mano. Cazzo, rispetto più a lui che a ste stronzate che sento. Vabbè, ma ho capito, Antonio, ma tu non puoi questo è il paese di questa gente qua. Ma ogni che sera che tiro che si fa tirare una foto della polacca e intanto va a sbattere con la nave. Ma io non c'ero. Ah, Schettino, dici tu, Schettino. Ma guarda, ma ci rendiamo conto, quello è una che si sta facendo chiamare, non sapevo neanche. Ho capito adesso, ma tua, Antonio, io non ho capito. Ma non possiamo chiamare ogni sera la Nappi, signora Di Pietro. Ma dovete chiamare, perché cazzo, dobbiamo fare una petizione. Io faccio anche un facciamo un brano su per fare che la Rai, perché io voglio sentire la Nappi tutte le sere, che è la donna in quanto tale che dice che quando deve farsi chiamare voglia di farsi trombare. L'altra cosa ha detto una cosa bellissima, ragazzi, che ha detto? La ragazza intelligente ha detto: io quando chiamo con le donne degli uomini che voglio trombare, voglio che lo sappiano anche loro, e ha ragione, perché non devo essere solo io la prova. Antonio, ti abbraccio ecco, fortissimo. Signora Di Pietro, no comment su questo intervento. No, ma infatti no comment, anche perché non mi interessano questi discorsi. I miei discorsi sono ma lei conosce la signora Nappi? Ma chi è Nappi? Non conosco. E con questo io ti abbraccio fortissimo. Domani magari ti richiamo, ti abbraccio forte. Un bacio, ciao Carmen, ciao. Ciao, ciao, ciao. A proposito, tu Giuseppe, scusa, se non mi chiamate prima di Natale, posso augurare a tutti i radioascoltatori dell'azzandare un buon Natale e un buon anno? Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.